andare in cattolina, a Bisese, tutti a Santo Paolo sono andati, ma i zaccaresi tutti a Santo Paolo sono. Attento Giomma. Giovanni Maria. Oh, ciao Marco, buonasera. Sì, guarda, da un video ho appurato che quel baracchinetto è omologato alla scritta CE, quella sigla. Quindi se vuoi acquistarlo, caspita. Però, allora, Media Globe, ti spiego, Media Globe lo vende sia sul negozio suo, e costa 59, poi lo stesso apparato lo vende su eBay e costa però 63 più la spedizione. Se uno lo compra direttamente dal negozio mediaglobe.it paga un po' di meno, tutto lì. Ho già fatto da ieri, capito? Così che dovrebbe arrivare a sistemare l'entrante. E ho già girato, dai. Ah, già fatto, bene. Sono contento che almeno ne hai trovato uno che ti piace, dai. Ce ne sono tanti, tra Intec, Midland. Adesso Lafayette, non so, Lafayette da quando Marcucci ha chiuso, non lo so come sia, ci vuole qualcun altro che prenda il marchio Lafayette. E comunque ne trovi tanti omologati, devi scegliere solo la, appunto, la forma che ti piace di più, l'aspetto che ti piace di più, e quello ti piaceva e quindi hai fatto bene a prenderlo. Ma infatti è l'unico, poi mi piace perché c'ha anche il display grande, capito? E c'ha tanti colori anche, per quello l'ho preso, perché è abbastanza grandetto e per cui, insomma, è un apparecchietto, appena che l'ho visto mi è piaciuto, 63 euro, e cosa vuoi pretendere, ragazzi? Ma, infatti, ieri direttamente l'abbiamo ordinato e dovrebbe arrivare la settimana entrante. Almeno sono tranquillo, questo piglielo, metto da una parte e cosa ci vuoi fare? No, naturalmente usalo, ripeto, se tu non hai problemi particolari tipo TVI forte, ogni tanto usalo, perché guarda che lasciarli fermi si rovina, no? E mi raccomando, se lo lasci fermo si rovina, quindi ogni tanto qualche domenica lo accendi, capito, fallo girare naturalmente. Ho prestato un baracchino a una persona per ascoltare, per adesso, vediamo se già lo ascolto, attenzione, come chiamarlo, il tiratore del poligono, ci sei, batti un colpo se ci sei. Ah, ok. Ma sai qual è che mi piaceva anche? Ce n'è un altro che mi piaceva. Come si chiama quello lì? Dunque, aspetta, Dunque, era il... Dunque, beh, adesso non mi ricordo come si chiama quello. L'otto... No. CRC 2000, anche quello mi piace, capito? Però ormai ho preso quell'altro, è bello anche quello, il 2000. Ah sì, lo conosco il CRC 2000, ma penso che il tuo abbia un display anche più visibile, bello grande, capito? Che poi più che altro per vedere i canali e le funzioni principali va più che bene. E guarda che la CRT ne sta sfornando uno dietro l'altro e di questi omologati, c'è il CRT 2000, c'è, ma adesso i nomi non mi vengono, ce ne sono tre o quattro mio di quelli omologati della CRT. Uno praticamente che c'è una scatoletta nera piccola e poi il resto è tutto sul microfono, tutti i comandi, i display, tutto sul microfono, ed è più grande di un microfono normale ovviamente, capito? E infatti, c'ha tante cose quello lì, sì. Anche quello mi piace, ma però ormai ha preso quell'altro e mi piace di più. È bello il 2000 perché magari c'hai il display a colori e il display è bellino, là, già si può prendere. Però per quell'altro mi piace di più, dice che ho fatto quello e ciao bravo. Poi per carità. Ne ho tre di questi omologati, di quelli di prima, ne ho tre. C'ho questo qua, il 497, la base, che c'è anche le bande questo qua, Questo c'è anche le bande, è omologato. E qui c'è il Zodiac e la Paiette stessa. C'ho quelli tre omologati, capito? Ciao Gio Maria, un bacione da Liu. Ehi, Liu carissima, buonasera, ben sentita. A tanti non ti sentivo, come mai questa assenza? Prima si sentiva molto spesso. Ho la poltronica ti ha attaccato al baracchino, così è. È Marco che me lo ruba. E beh, giusto, no, il baracchino è mio, non è il suo. Ma se lei volesse potrebbe modulare. Io volentieri la lascerei il posto per farla modulare con voi. È che lei preferisce sempre questa televisione, sempre guardare televisione, tutto il giorno televisione. Capito Gio Maria? Lei aveva espresso però l'idea che le sarebbe piaciuto modulare, capito? Sarebbe, magari è un altro svago, ma può fare una cosa e l'altra. Guarda la televisione quando la può guardare e poi quando c'è la... Oh vabbè che adesso non c'è più nessuno, è raramente che trovi durante il giorno, assolutamente, non c'è un'anima, non c'è un'anima, solo la sera magari dalle 5 poi qualcuno si affaccia e basta. Ma penso che non converrebbe nemmeno per lei. La televisione, gli piace la televisione come mia moglie gli piace troppo la televisione. Quando si siede, stai tranquilla che non, tutto fino a tardi di notte, anche l'una, è l'una passata, si corica, ti puoi immaginare per chi piace troppo la televisione. A me no. A me no, io l'accendo sì, però poco e niente, ecco. E poi sai cos'è? In questo canale siete solo uomini, quindi lei avrebbe un po' di soggezione a entrare, insomma, così a intrufolarsi in un canale di... Se ci fosse magari una Greco L che parla, come poteva essere a suo tempo, ti ricordi Fiocco di Neve? Che purtroppo aveva quella malattia muscolare, eccoci. Con Fiocco di Neve parlava all'epoca, ma siete tutti uomini, quindi un po'. È così, un po'. È in soggezione, dai. Ma è così, dai. È così, infatti prima sì c'erano, ce n'erano parecchi, c'era anche Bettina, c'era. Fiordaliso che anche lei non mi ricordo più i nominativi, però ce n'era una barca di donne che ci sarevo salvano ore e ore chiacchierando e si ammazzavano il tempo così, però adesso è certo che non c'è nessuno, magari con delle persone dei maschi magari non è che si sia tanto bene, capito? Infatti dovrebbe essere così, ormai è passata quel periodo, però qualche volta un saluto fa sempre piacere, Marco, capito? Sì, infatti, ma se volesse anche lei già lo sa usare, potrebbe accendere e salutare di suo pugno e volendo. Allora, stavo guardando qua i vari CRT omologati, no? E sono tutti omologati ormai questi. Allora, esiste il CRT 2000, quello che piaceva a te. Esiste il CRT Mega Pro, che è lo stesso sempre omologato. Questo sembra un VHF perché c'ha i tasti. Sul microfono ha tutti i tasti come fosse quasi un VHF. Poi esiste il CRT Millennium. poi esiste il CRT mic, che è quello che ha tutto sul microfono, poi esiste, mi pare, il CRT mini o roba del genere, adesso non lo trovo, CRT mini, che mi pare sia il più piccolo in assoluto. Insomma, si sta dando da fare la CRT, capito? Più della Intec. La Intec un po' sta perdendo quota. Mi pare che in catalogo abbia solo il CRT, ma la Intec ha solo l'899 in catalogo, non ne ha altri. Invece la CRT ne ha tanti. Esisteva anche il CRT mini, che era, era il più piccolo in assoluto. Era uno scandalo, era da quanto era piccolo. E vabbè, tanto mi, come vedi, anche con un banale omologato si riesce a parlare, tanto siamo tutti in città, alla fine basta anche un watt, neanche mezzo watt basterebbe per parlare in città, lo sai? Sì, ma infatti, no, non è come prima, no, ma adesso è chiaro che anche con mezzo watt si riesce a chiacchierare, siamo tutti vicinissimi. E per cui se è fuori non c'è più nessuno, qua raramente magari adesso comincia la propagazione, vabbè, però di solito parliamo fra di noi, che siamo tutti vicini e così, tanto a parlare con fuori non mi va più, come prima, per cui prima si divertiva di più, per adesso magari forse anche l'età, non c'è più voglia, eccetera, eccetera, capito? Ormai è passata quella voglia, quindi che 81 sono parecchi, Marco, per cui io sono 42 più di 42 anni, quasi 43 anni ci sono io in frequenza, si può immaginare, forse anche di più, certo, puoi immaginare, avevo 21 22 anni, una cosa del genere, e 81, fatti conto, e chiaro, ne ho visti. Ma è passata quella... ma infatti, sono passati, forse troppo ci sono, per cui mi sono un po' stufato, capito? Tra l'età e anche mi sono stufato, tutto lì. Tu ci sei anche una vita al baracchino, a voglia. Allora, te ne segnalo un altro omologato che non ho detto prima, il CRT One, scritto ONE, si pronuncia One in inglese, no, sarebbe CRT 1, anche questo omologato, come quello che ti arriva a te, CE0700. Però questo lo sconsiglio perché ha il cavo del microfono fisso all'apparato, lo sai, non a spinotto. Se si rompe alla fine il microfono è un macello. E vabbè, di tutti i colori ne fa la CRT. Buono. Insomma, ce n'è per tutti i gusti, di tutti i colori, di tutte le forme, come lo vuoi, lo compri. E c'è da scegliere, infatti, non perché ne apparecchie. Ah, ho visto, ce ne sono a barra, carissimi quanti ce ne sono, e sono omologati anche. Per cui c'è da scegliere, c'è. Ah bene, infatti, in mezzo a tanti di questi che ho visto, è quasi un mese guardando a questo, quest'altro, ma ne ho visti tanti tipi. Oh, l'unico mi piace è stato questo e quell'altro, il 2000. Forse sono gli unici due che mi sono piaciuti, gli altri non. Perché mi piace i display grandi, capisci? I numeri grandi. Sino anche se sono con lo svizzere come la Fayette eccetera, no, il numero di canali così e basta, no, quello non mi piacciono più. Non mi piacciono più quelli lì, per cui ho preferito questi che stanno i display grandi e i numeri più grandi, capito? E vedi più bene, ecco. Sì, questi col display digitale. Io invece il contrario. A me piace questo qua, Smitter classico, come i micromatti, bello. Un classico, mi è sempre piaciuto, da quando sono entrato in frequenza, nell'84 io sognavo di comprare un 3009. Però sai, avevo 14 anni, non è che avessi soldi. quindi niente, c'era il 3006, il 3009 e poi vabbè, poi l'ho preso. Poi ci sono altre marche anche che fanno baracchini omologati in Italia e baracchini tedeschi tipo Albrecht, poi che so, adesso non mi vengono i nomi, ce n'è un sacco, una sporta comunque. Anzi, ci sono più baracchini che utenti, lo sai, ci sono, ci sono più baracchini in vendita che utenti che li usano. Infatti è così. Albrecht, è una marca buona quella lì, quello fa apparati buoni. Sì. Però quella è una marca inglese, mi sembra che sia. Ma quale? La CRT? No, è l'Albrecht. Allora, Albrecht è tedesca. La CRT invece è francese. Cioè sta sfornando un bel prodotto, invece la Intec, non ha più idee. Ma probabile pure che la Intec non abbia più voglia, chiuda in futuro. Perché non, pochi modelli, non c'ha più niente, c'è un baracchino in catalogo e boh. E vabbè. D'altronde, come la Sigma ha chiuso, la Sirtel forse ha chiuso. E questa 27 non so che fine farà, fra 10-20 anni la riassegneranno ad altri servizi sicuramente, quando non ci sarà più nessuno. Perché non c'è commercio, capiamo che parecchie ditte stanno chiudendo perché non c'è commercio, magari hanno preso un'altra attività e che lo sai. E come fai a viverci con questi apparecchi così? Non c'è più nessuno, ha tutto abbandonato e per cui non chiaro che si danno per altre cose, capito? Dice che ce n'è qualcuno ancora, ma non penso che si risvegli perché assolutamente non c'è più commercio, ecco. Quando non c'è commercio la vita va in quella maniera, va a finire male, ecco, per cui prendo un'altra attività e fanno bene, dai. Io stasera sono uscito verso le 2:30, 3, sono andato da Decathlon a comprare un paio di cosette, una bomboletta di gas per il fornelletto, poi mi sono preso una torcia da fronte, no? Con la cinghia, per quando fai cose al buio che devi avere le mani libere, e poi una piccola specie di borracetta trasparente di plastica, roba da poco, pochi soldi. Poi sono andato da Brico Center, quello di Ocean, e non avevano quello che volevo io. Ah, a parte, lo sai che Brico Center chiude a fine mese? Sì. Euronics credo che abbia già chiuso ormai. Anche quello è. Ma non credo, Beh, sta sempre cambiando, ogni tanto magari cambia posto, adesso è andato a finire a Pedranieda, è andato a finire su vicino, e dunque vicino di, su alla parte di Giompino, nel mercato lì, e vicino a Cesaraccio, mi sembra che sia così, là, dove si cappano il Cesaraccio, a fianco mi sembra, o no? Quello è Unieuro, invece Euronics sta chiudendo, sono andato e quasi tutto vuoto dentro, una desolazione, guarda. Unieuro invece ancora riesce a lavorare, invece Euronics, guarda, mi si è stretto il cuore a vedere il negozio tutto mezzo vuoto. E poi i dipendenti senza più lavoro, a spasso se ne vanno, poveracci. E poi anche questo, a volte vengono licenziati queste persone, secondo le età che hanno, ma non ne trovano più lavoro, dopo una certa età non si pigliano più a lavorare, capisci? Anche quello c'è il fatto. Certo, è un macello, stiamo andando e peggiorando, ragazzi. c'è parecchia gente ferma, molti, molti, molti, per cui non lo so perché stiamo andando e peggiorando, che puoi immaginare come si fa, troppa gente disoccupata, no, ce n'è lavoro, ecco il fatto a me, magari lo trovi lavoro e c'è qualche anno c'ha tanto, no, non possiamo, noi prendiamo i giovani per i contratti di formazione, per non pagare tasse, eccetera, eccetera, perché dice che non si riescono più ad andare avanti, che li craccano le tasse così e là, capito? Anche questo è il fatto. E come si fa? Se non c'è commercio, come fa una ditta ad andare avanti e a pagare gli indipendenti? È quello il fatto. Lo so, pensa che lì lavorava un ragazzo che conosco da una vita, prima lavorava da scarpa questo ragazzo, e adesso avrà un 50, 55 anni credo, e una volta licenziato da Euronics dove va a quell'età, non lo prende più nessuno. Vabbè che ha lavorato una vita, lui è già una vita e lavora, penso che ormai riesca a andare in pensione, almeno spero per lui, e se no è tribula la cosa. Vediamo se ci ha ascolto l'amico pistolero, ci sei all'ascolto, fatti un colpo riportante. No, non è entrato ancora, dai. Vabbè, almeno può ascoltare, dai. E ancora magari preso, là, magari verso le 6:30, le 7:20, qualcuno già entra. Insulto, autore magari verso quest'ora qualche volta entrava, adesso anche lui, forse anche perché fa magari serate più lunghe, belle, e se in bicicletta e si fa il diretto. Quando rientra alle 7:20, allora entra al baracchino. Anche mi sono preso anche la bicicletta elettrica, mi sono preso, mi è arrivata l'altro giorno, l'ho provata, cazzo, devo fare pratica, io Marco. Quella è bella perché ti aiuta molto nella pedalata. Io invece avevo preso la bici normale, mamma mia, no, non è più per me, l'ho subito rivenduta, non mi ci trovavo bene, non è per me. Quella elettrica ti aiuta molto nelle salite, aspetta, ne ho visto passare uno, sembrava uno scooter dalla velocità che aveva, all'anima. Questa è bella, è bella, poi attrezzata, c'ha tutto, c'ha il babuetto di dietro, c'ha anche il cestino davanti, c'ha le luci, c'ha anche le frecce, c'ha il clacson, e c'ha completa, è bella veramente, e per cui ho provata e mi è piaciuta subito appena che l'ho vista, l'ho presa dai piedi, da Puglia. E ti dico che è bella veramente, cammina parecchio, fa 40 km con la tenuta piena della batteria, capito? Si può immaginare, però in salita se pedali, guarda, a leggere non la senti nemmeno la pedalata, perché è la pedalata assistita, per cui camminano veramente. Già sei marce, sì, per cui è completa, ecco, completa, lo so, tutto. Bella, Ia. A me è passata la passione, a me sarebbe piaciuto rimettere lo scooter in movimento, ma non è per adesso, dai. Poi se proprio non si riesce a fare niente lo venderò. Però c'è la trasmissione da rifare, la cinghia, i rulli, non lo so cosa sia, da rifare. E ti danno poco, a rivendere ti danno ben poco. Pazienza, eh? Accettiamo quello che danno. Insomma, mi è piaciuto, me l'ho sorpreso, per cui ogni tanto qualche diretto me lo faccio, ma ancora fuori non sono uscito, perché adesso magari dietro qua c'è un percorso lunghetto, macchine che passano poco, per cui sto facendo un po' di allenamento in giro, magari più là, quando comincio a fare anche più giornate più belle, allora magari qualche diretto con qualche don altro, già ce lo facciamo un qualche diretto, a scendere la Plaza Mona, a salire, capito? Infatti, oggi è una bella giornata di pomeriggio, caspita, con la macchina avevo un caldo, devo tenere i vetri aperti, ero in camicia, bastava lasciarla al sole, parcheggiarla un po'. E a proposito di Brico Center lì, siccome sentivo il profumino di McDonald's, sono andato e mi sono pigliato un panino e delle patatine fritte. Almeno ho mangiato prima oggi, dai. Ho mangiato presto e quindi poi cenerò alle 8, alle 9, così, dai. E così faccio una cena normale, all'ora normale. Se ti riesci a abituarti. Ma oggi non sono uscito, oggi me ne sono alzato presto e avevo deciso di pulirmi la stufa a pelle. L'ho tutta smontata, tutta. E ho finito che era quasi mezzogiorno. Anche ho tolto tutti i tubi, puliti bene, e la stufa l'ho smontata quasi, insomma l'ho fatta lucida lucida, per cui adesso fino all'anno prossimo e sono tranquillo. Ed ero tutta la mattina in apparato. Stasera nemmeno, no, non sono a nessun posto, non ho voglia di uscire. Forse magari domani mattina ti faccio una passeggiatina. Abbassare il tempo, non per altro, nemmeno a campagna sto scendendo molto spesso, però forse ci scenderò domani sera o dopodomani, non lo so. Adesso mi sembra che siano anche le ciliegie, le nespole, così che vediamo un po' se ce ne lascio le ciliegie e le cornacchie, perché lì è tutto pieno di cornacchie. Già ne mette poco, però quel poco che c'è, se lo sta attento se ne mangia tutte le cornacchie, ma... Oh. E anche qua girano, fanno anche chiasso, E l'altro giorno c'era un gatto sul muretto e la cornacchia che quasi si avventava, lo sai, si metteva davanti, apriva le ali e gracchiava, il gatto è fuggito, il gatto. strane le sole cornacchie. Va bene, chi altri c'è all'ascolto? Avanti. Tutti sono ancora a dormire, a fare la penichella, all'anima della penichella. Quasi quasi mi appendo un po' di roba all'aria, devo far asciugare un po', far pigliare l'aria alla camicia, da. E poi si vedrà, casomai entro un po' più tardi, se riesco, dai. Pomponio non si è sentito ancora, ah. Pomponio si fa le omologazioni al contusoio. Ai! E vabbè, ognuno dice la sua. Tu l'ha presa in tuo modo, per cui facciamolo dire. Va bene Marco, dai, io mi assento in 10 minuti, un quarto d'ora e magari ci sentiamo dopo, se coincide, ok? Basta la piccola chiacchierata e salutone anche a Liu e ci sentiamo Marco, ok? Ok Gio Mari, dai, faccio qualcosetta, mi appena un po' di roba da vestire, lavata e così, dai. A dopo, ciao Gio Mari, buona serata. Ok, ciao. Oggi le minga? Sore! Oh, cavrush! Oh, ya! Yeah. Beh, qua sei Gio Maria, stavo ascoltando sul 4. C'è Giulio, qua non è entrato nessuno oggi. Sto aspettando a cenare, caspita, mi sa che me le mangio già perché ho già fame. Non è entrato nemmeno, persino Antonello Pomponi non è entrato nemmeno lui oggi. L'ho sentito, era sul 4, era con quello di Osimo e quello di Chiaramonti parlando, però è stato poco dopo ha chiuso e stavo spazzolando, infatti gli ho sentito, che c'era anche Giulio e però me ne sono passato qua e stavo ascoltando se entrava qualcuno e sei entrato tu, ecco, non si è fatto sentire né Bacchiglio e né Sore. Vabbè, già mi sono guardato la TV io, che sto ascoltando e guardando la TV, si entra qualcuno, si chiacchiera, non tiro pazienza. Eia, e oggi è giornata fiacca, anche io stavo ascoltando sul 4 perché Uranio aveva un problema, in AM si abbassavano i segnali, capito, riscendevano i segnali a zero. Invece Dinamite era stabile, il segnale Dinamite era stabilissimo, era 7 e modulato 7,5, invece a Uranio gli scendeva a zero il segnale, capito? Però in FM non glielo fa. E se fosse un falso contatto lo farebbe in tutti i modi di emissione, se fosse un falso contatto in qualche spinotto, deve essere qualcosa dentro la radio, perché non me lo so spiegare, non me lo so spiegare. Ed è rientrato Giulio mi adesso e gli stava spiegando un paio di cose sui condensatori, quindi Gio Mari, c'ho la pizza nel forno, no? E torno sul 4 ad ascoltare, almeno ascolto qualcosa, dai. Ok, dai, buona TV, già ci saranno giorni migliori, dai, ok, ciao Gio Mari, ciao. D'accordo, ma sentiamo, vai, buon proseguimento, buona passeggiata. Io sono qua, c'è entra Bacchiglio, Sore, sono qua io. Ok, ciao. Ciao, buona serata Gio Mari, buon tutto, dai. A passeggiare alla Hawaii. Buonasera Gio Mari, non è Hawaii, a me stai scendendo la fiducia. Ehi, alla Hawaii è partito Tore. Tazza, boh, chi si faccia con di bicicletta pedalese, ma chi è per l'allenamento? Allora, mi va a fare il giro dall'Anglona, a fargli fare l'allenamento, la manco giù da un poco, anche in grazie di troppo. Se pure grazie, con l'uso, è più lucido. E allora, infatti, per carità, ma chi, io devo fare che... lasciamolo fare, che sei più indaffarato lui. Sì, sei più indaffarato. E quello sempre col computer, guardate le chiappe, a lui il senso delle chiappe, il baracchino non gli interessa. Maniaco diventato, va. Allora, maniaco è diventato, quello è proprio maniaco, è puntato sul computer adesso, che... Boh. Non lo messo a dormire, dice dormi, fate un pisolino quando ne ho un po' di freddo. E lui dorme, prima si guarda quella lì, quelle lì al computer, Purtroppo gli addorme. Il baracchino evidentemente non lo fa dormire, allora pensa a attaccare il computer. La stufa è cosa ci vuoi fare, ma l'ha presa in quel modo che faccia quello che vuoi, già in mano è vacillato. Tore non l'ho sentito nemmeno ieri, ma no, adesso per cosa forse ieri l'ho sentito, sì. Anzi, lo stavo aspettando se mi telefonava ieri per scendere giù da farti la vista, invece evidentemente era troppo indaffarante e non ce l'ha fatta. Ma chi? Ognuno ha gli impegni suoi, per cui è giusto che sia anche così. Prima è dovere, dopo è piacere, ma sì. Un po' di calma. Già ce n'è tempo. Vedrai che... Già si riposa, prima o poi. Questo fracasso. Come? Senti questo fracasso. No. Oh, si è alzato un QRM pazzesco. Adesso non ce n'è più. Adesso c'è. Io lo scotch ce l'ho un po', mi sembra uno, così che a momenti sento, corre ma a momenti no. È così, è bacchino. Cazzo, se sarà uscito senz'altro in bicicletta, boh, non lo so, io oggi la dovevo prendere, invece da un coso all'altro non l'ho toccata, tutta la mattina impegnato per prendermi la stufa, l'ho fatta lucida oggi, tutto, così che adesso fino al prossimo prossima settembre, ottobre, quando comincia a fare freddo, allora l'accendo. Da parecchio so che non l'accendo io, perché non ho preso, sembra che non ce ne sia. E allora ho pensato, ma adesso me la pulisco completamente, l'ho tutta smontata, e per cui l'ho pulita tutta bene ed è pronta al prossimo anno, va. Io ho tutta smontata, anche i tubi, tutto il tubo, tutti i pezzi, l'ho raschiati bene dentro, l'ho bene pulita, tutti, insomma, l'ho pulita completamente, tutta, capito? Perché quella là ne vuole, mi sembra, da 80 a 120 euro mi sembra che vuole. Quei soldi che darà lui me lo sono pulita io, piano piano, la calma, e l'ho fatta come la pulisce lui. Per 2 ore, se ci sta più di 2 ore vuole ancora 30 euro. Hai capito? Allora. Dunque tanto mangio 2 o 3 giorni più, piatta. E allora, no, ho visto come si fa, e per cui da tutta la trattatura, per cui me la faccio tornare, non me la sto facendo così, ma ogni quando finisco, finisce il freddo, me la apro, non so quanta, pezzo a pezzo, me la pulisco, bene pulita, ed è pronta per la prossima stagione. Così che c'è cosa che posso fare, sempre già ne ho, per cui l'ho fatta tutta la mattina, dalle 8 fino alle 11 e mezzo, quasi mezzogiorno, ma l'ho pulita tutta completamente. Circa metri mi sta mettendo in mia, i tubi, più c'è una T dentro, dove c'è la ventola, ho pulito anche quella, l'ho pulita perché il tubo è verticale e certe volte può andare dentro, già c'è l'aria che la butta fuori, però certe volte quando non funziona la pulizia può andare dentro dove c'è la ventola e la potrebbe anche bloccare, infatti l'ho tolto anche la T. Sto bene pulita anche dentro dove c'è la ventola e per cui è tranquilla adesso. Faccio tutti gli anni così, ma tutti gli anni me la pulisco piano piano, con la calma, faccio tutto e così che è già pronto per la prossima stagione e così via. Di quelle piatte lunghe, capito? E siccome ce l'ho messa sull'adito e quella grossa non si salva, perché davanti c'è anche un armadio in un ripostiglio che c'è, e allora ho messo sull'adito, purtroppo non ho dovuto togliere la porta dell'adito Bacchino, perché la parte proprio dove c'è il tubo, del tubo lì è il calore più che prende, capito? Fossi stata dall'altra parte magari la porta ci sarebbe bene, però essendo la caloria a parte della porta mi può bruciare la porta, allora non ho tolta la porta, sono a parte, già va bene così. Adesso magari la posso anche mettere la posta, e per cui è stretta la mia, è lunga, orizzontale, capito? Non è di quelle grosse, capito? È stretta e è larga. Sì, la testa sarà un metro e qualcosa là. Per me già va bene questa qua, è facile da pulire, così che già va bene là. A piazza è il cubo di caloria a sinistra. Già capito, se lo metto da per essere a destra. Io la volevo col tubo di caloria a destra, invece non l'ho trovata in quel momento, ho preso questa. Infatti ho dovuto togliere la porta per quel motivo, capito? Sta messa bene ugualmente. E per cui è larga, capito? Però è stretta, in modo che passo benissimo sull'adito, capito? Se no, se avrei preso quell'altra non ci salva, capito? Non c'era nemmeno la porta intanto di poter passare, capito? E per cui invece ho questa, passo tranquillo con le sedie e tutto, capito? E ho preferito questa larga e stretta, capito? Che l'ho verticale subito, ho bucato la volta, ho fatto il buco e su ci ho fatto la fumaiola, ho preso i blocchetti con i tappi e quelli di cemento fatti apposta per il fumaiolo e rimane dentro il tubo, capito? Così che è facile, io lo tolgo tutti i tubi, no? Mi tolgo tutti i tubi per pulirla, già è facile, sono quattro pezzi e per cui a pezzo lo tolgo lì e cambio anche le guarnizioni tutte le volte che la pulisco, capito? Cambio le guarnizioni e dopo ce la torno a mettere. Ok, avanti signor Tore, buonasera. Allenamento fatto. Signor, un attimino, sono al telefono, sto entrando subito. Cazzo, dalla radio di Marchisio, la radio tua, ma è toccato a Massarro che mi stava spaccando il timpani. Capito, sei al telefono, chissà che lo cerca questo Tore, cazzo. Allora, signor Marchisio, buonasera. Buonasera, signor Gio Maria. Buonasera, signor Gio Maria. Come ti mai? Alle mani di Sigheri Sollu? Ieri di Sigheri Sollu. Oggi no, mi intendi bene. Ah, ti ho già spaccato il tifo, hai detto. Ma Marchisio, a te, e c'è un abisso. Certo, non so io, questo è il signor Marchisio, se no si attrinza. Vedi adesso se mi ascolti. Gli attaccato pure la zona di raccoltelli, pure se arrivassi, ma gli attaccottavo. Uia, come niente. E come si va? A piedi si va, a piedi. Sono tutto gonfio. Tutto gonfio, sì. Andava. Uia, catta che andiamo, vero signor Bacchi? Uia. Così, stiamo tornando, buonasera. E così so. Allora, ritornando al corso dei barattini adesso. No? Io ci ho chiamato mio cugino, il suo accumulo. Non cercano, ma qua sì. E infatti di momento ho fatto un fondo appositivo, scendo alle poste di Torino e voglio chiedere alla centrale, ma se lo fai sapere. Ehi, a Gio Maria. Già c'è la targhetta di quell'apparecchio già. è attaccato alle alette di raffreddamento, ce l'ha la targhetta con la marca C, capito? Già è omologato già quello, e così che io l'ho già preso tu, fatto per farmi sapere allora quando arrivi. Aspetta che facciamo entrare quello che era avanti, il signor che stava entrando. Ehi, buonasera a tutti, comunque, bene scucciti. Scucciti siamo, non cucciti, scucciti. Però signor Gio Maria. Esatto, le buonasera. Così è. È un macello, è un macello veramente, ma se te l'immagini, vuol dire che questo l'ho preso e me lo metto a fianco, lo distacco e ci metto quell'altro, capito? E cosa fare? Ieri sera l'abbiamo ordinato, dice che arriva la settimana entrante. Il 3, il 4 e il 5 arriva. Sì, 3-4 giorni lavorativi sono, non 3 giorni lavorativi là. Ma tu solo l'hai ordinato? Come? Tu solo l'hai ordinato? Stavo guardato così e là, dopo ho sentito a Marco che ha trovato quella targhetta. E così che mi sembra che abbia telefonato a Media Globe e gliel'ha fatto vedere la targhetta, è attaccata alle alette di raffreddamento, non si vede così guardando dal computer, però gliel'ha fatto vedere direttamente, capito? Negativo, scusate l'intromissione, l'ho visto su un video. Allora la targhetta è messa in verticale sull'aletta più esterna. Buonasera a tutti. Marco, buonasera. Già è così, capito? Sì, già ho capito, sì. Sì, già. Vuol dire che quando lo guardi non si vede. Andare, va bene. Aspetta che facciamo entrare signor Macchi, prego. Ehi, ciao Marco, buonasera, ben ascoltato. C'è anche Antonello, l'hai lasciato in bianco. Mica sono in bianco, sono stato poco fa. Va bene, bene, ciao Marco, saluto di ben sentito. E allora cosa state vi state lavorando per questi apparecchi qua, vi state già lavorando, cosa avete? Beh Antone, per mettersi in regola. Comunque saluto tutti, Quadrix per me perché sto facendo il caffè e altre cose, dai, proseguite. Ciao Antone, un bacione. Ehi, ho ricambiato la Paoletto Falcone, l'asso. Mi raccomando, preparo anche a noi, dai, che ce lo prendiamo. Avanti sto. Ehi, buonasera Marco. Ciao Antone, se dei miei pezzi, tu. Ma anche c'ho la caffè, se rubi la che c'era io non drombo tutta la notte. Poi andava signor Gio Marì. Così, ma allora ho visto così, c'era mia figlia, ha fatto tutto lì, ha fatto che fatto, non ci penso più, e cosa vuoi fare? Almeno sono in regola e non mi rompo le scatole, capito? E questo lo metto alla parte lì, ma che da voi magari gli altri la vanno a usare lo battesi. Andava, aspetta. Quindi, ma chi ti ha chiamato? Hai chiamato tuo cugino, Là non li cerca dove sta a fare le roba qui. Cercano solo se è omologato dalla DC, dalle forze telecomunicazioni. Non ci vanno a controllare se c'è o non c'è. Capito? Se ne fregano altamente. Però oggi scendeva giù a Torino, andava alla centrale a chiedere un po'. Ma chi? Qua? Là è Torino, qua siamo in Sardegna gli arusai come terra goggia, hai compreso? Infatti si informava a vedere un po' perché c'è tutta questa differenza. Nel Baretrano, che a Torino è una cosa, in Sardegna siamo un altro perché siamo anche regionali, l'ho preso. Ma no, in Italia sempre in Italia siamo, la Sardegna è in Italia, non è mica all'estero, no? Dunque apparteniamo tutti alla stessa calderona. Vabbè, ma là c'hanno un'altra cosa, qua là non li cercano. Allora poi da ciapiche, truccati droncani. Ecco come ti, ma sempre meglio se in regola i nobili. Ah, ma con ne capito cosa l'utenti a. Ah, è divenire un gavi. Ha fatto, andiamo a cosa, vai a vivere a Bolzano che non ti cercano manco le tasse. E infatti. Adesso parecchia gente che non paga tasse a Buru. A Bolzano non paga nessuno, questa, ma ecco perché è un paese ricco. Non si sa che possano fargli qualche cosa. Siamo noi che sanno che non ci giriamo, che se fossimo girati, stai tranquillo, le cose sarebbero cambiate, siamo diventati ricchi anche noi, solo che Bolzano non li toccano, capito? Perché se no se si girano quelli, cosa reda? Sono tutti tedeschi lì, figurati, non viene uno italiano, parlano solo tedesco lì. Adesso la settimana entrante, il mio cugino del Giappone va in fiera, come fa il lavoro in fiera. Lei poi dice, se tu aspetti un po' in Germania, su qualche costano 100, in Germania costano 50, sempre lo stesso apparato. Però se te lo fai spedire c'è il trasporto che costa 90, se invece ti prendo un giorno ti costa di meno. Beh, se vai in fiera già non credo che costa di meno. No, dammi già globe, 56 o 58 mi sembra che. Perché se lo prendi in negozio direttamente è più costa di meno. Se lo pigli ovviamente tramite il computer lo paghi 63 euro, 70 euro là, 60 euro tu. Media Globe ce l'ha. Lo so che ce l'ha Media Globe. Se l'ha ricidata sopra l'abbia pagata di manco, su a Genova. De manco? Però è riuscito a salire a Genova. Avrei preso lì. Bisogna vedere se ce l'hanno quelli a Genova, capito? Non sono tutti che ce li hanno, capito? Però quel tipo che sto dicendo io ce l'ha messa e magari ce li hanno parecchi qua in Italia, capito? Però quelli che costano più poco è Media Globe, gli altri costano sempre di più. In Germania costa, mi sembra, 125 euro. Il cugino dice che a Bacchisio dice che il cugino in Germania costa di meno, un parecchio di meno, se si aspetta, ma ha messo tutti uguali i brici. Ma allora. E poi sappiamo, no? Da un negozio all'altro c'era sempre la differenza, chi più o chi meno, capisci? Che l'unico è quello di Media Group, quello magari è l'unico che c'è in Italia che lo paghi di meno. Sì. Gli altri posti costano sempre di più. È infatti così. Se prendete la signor Bacchi. Ciao Bacchini, no, precisamente serata, buona cena, saluta in casa e ci sentiamo se Dio vuole domani. Alle prossime, vai a Torino. Ehi, ciao Bacchini, ci sentiamo alle prossime, stammi bene, buon cuore tipo tutto. Ciao signor Bacchisio, ci sentiamo alle prossime, domani. Anche va bene. Si prende la Gio Marì. Mi devo piazzare a denda, signor Bacchi. Se vi fosse in tempo, vi farò, se no sarà domenica forse. Se andate. Va bene, allora. Continua pure con la buona serata. Ok, si prende la signor Gio Maria. Hey, ok. Allora, te l'hanno piazzata tu la testa? Oh, e vedi come non te ne piazzano, me la devo piazzare io. Tu la piazzi, cazzo. E da solo ce la fai a piazzare? Oggi si è piazza degli Safi, pensa un po' questa gira. Ho portato stasera, amico. Ho finito poco fa di piazzare le... di fare i buchi e piazzare le staffe. Adesso domani la metto su. Ah, è facilissima questa, è a Puglia. È facile, è facile. Ah, ecco. Io pensavo che stavo piazzati da loro direttamente. E invece non è detto stesso. E beh, le cose che si può fare da solo va bene. Perché... va bene, e tutti cose risparmiati. Ah, infatti. Quasi quasi quasi butto le staffe già piazzate, che domani metto sulla tenda e poi metto i cosi nella ringhiera, boh, tutto va e anda bene, ma gli facciato una dutta, ma gli un caldo e anda bene. Oio, oio, mi devo pure un fianco, mi devo dire. Beh, ma qual è quella che c'è a fianchi in bracci pieghevole? Quella lì, oppure con lo ferro la rotoli? No, questa è caduta, devi farla scendere tu girando la manovella, la devi far scendere, è accaduta questa, quella con le braccia gliel'ho tornata indietro io perché non la volevo io quella, troppo bisogna a piazzarla. Ah, ho capito qual è. Vabbè, quell'altra più pesante allora, e questa rimane più leggera. E il telo buono? Aspetta, a voglia se è buono quel telo lì. Ed è di quello telo plastificato anche. Ed è un bel buona, la puoi lavare come vuoi quella. Bene, bene, Alberto ti ripara l'acqua e il sole adesso, così è. E più che il sole, è per il sole che la sto mettendo, non per l'acqua. E poi rimane dentro lo scatolato, se ne va dentro lo scatolato se ne va, quindi non si guarda. Allora va benissimo. Bene, Veda, Antone. Dimmi tutto, sono qua. Ah, io sì, sì, pensavo che te ne fossi andato già. No, perché? Ma perché me ne devo andare, adesso che no. Bisogna farli scaldare gli apparecchi, se non si guardano glielo sai. Lo stanno scaldando, deve essere acceso, dici che... c'è il fratello, passa questo scalda, davanti, dove c'è il frequentino, tra i due mie, smettere. Certo, sai che è caldo, a calda questo apparecchio. Oh, no, che ci sono stazionarie, no? No, è calda dove ci sono, perché ci sono già due strumenti, no? Il voltometro e l'amperometro, no? E il modulato e cose, e qui c'è il frequenzimetro. Questo che è frontale, questo che scalda frontalmente sopra dove sono gli strumenti. Perché ci sono 2, 4, 6 lampadine ci sono, capito? Dietro no, dietro è freddo. Dove sono il finale? Freddo. Insomma, già è caldo, ma non è freddo, caldo caldo, capito dietro? Ci ho preso, ma davanti è caldo, vabbè. Hanno molto troppe lampadine e caldo. E infatti, sono le lampadine che riscaldano. Ok, Antone, tu li fai scaldare invece, così. Oh, ma a me non scalda nulla qua. Io ho messo due led, gli ho tolto le lampadine normali, a Sant'Onneco gli ho messo due led bianchi. Già si fumano domani, già. Gli ho messo i colori di stilo chiaro. Eia. Oh, già non si c'è questo. Pinocchio. Hai visto? La Pinocchio, la magaccia tua, Marco. C'è niente, no, rosa. Se avevi messo la panina rosa, ti avrei dato ragione. Cazzo, con la lampadina rosa, mi stai ricordando quelle, il film Insommergibile Rosa, mi sei, e non lottava nessuno, non mai più che rischi non lottavano. Oh Gianmarie, tu ce l'hai WhatsApp con Marino? Cos'hai detto Marco? Tu ce l'hai WhatsApp con Marino? Sì che ce l'ho. Perché potrei mandare la foto a Marino, ma tanto per interesse, mi la foto a Marino e Marino te la manda a te tramite WhatsApp e vedi come è messa l'omologazione. Ah, aspetta, dopo lo si sta caricando, dopo lo prendo. Sì, no, tanto non è per adesso, dai. Lo devo trasferire dal computer allo smartphone. E poi lo mando a Marino e poi già si arrangia lui, dai. Ma fa prima ad arrivarti la radio che non a mandarti questa, la foto, lo sai. Ma Tommy, una volta tu hai detto che l'hai visto sul filmato, me lo guardo sul filmato io, il computer, me lo fa vedere anche su filmato pure, capito? Però non mi ricordo qual è dei tanti filmati, perché video su YouTube ce ne sono tanti di quell'apparato. E poi bisogna beccare il punto esatto dove fa vedere l'omologazione. Faccio prima a mandarti quella foto tramite Marino, dai. Fai così allora. Fai così, gliela Marino già me lo manda subito. Va bene, riprendete, dai. Ok, avanti, dottore. E io, Gianmarino, mi stavo preparando perché devo andare a prendere la signora. Vabbè, dai, io sto chiudendo. Ci sentiamo domani, ci sentiamo. Ciao Gianmaria, ciao Antonello e ciao Marco. Alle prossime, ok, ciao a tutti. Ciao, ci sentiamo, ciao. Ciao, ci sentiamo, allora, ciao, sono in casa, domani. Ciao. Ciao dottore, buonasera, buon tutto, dai, alle prossime. Ma lo sapete che sento le radio AM sulle vostre modulazioni? Addirittura. La radio AM, mia, Antonè. Le onde corte, come le vuoi chiamare? Caspita, sento le voci appena più basse della vostra modulazione. Boh, boh, deve essere che la propagazione sarà, boh. Non è quello di propagazione, lo fa a volte, è un disturbo che non sai che tu ci hai ripetito vicino a casa tua, quindi va bene, poi sono stanco così, comunque tra uscire tutto, ma mi dispiace che stia chiudendo il call center, pazienza, devo comprare un piccolo articolo, ma l'avevano già finito. E pazienza, purtroppo Bricoman l'ha strozzato, capito? Bricoman è enorme, c'ha tutto, quasi tutto. E quindi Bricoman non lavora quasi più. No, Brico Center non lavora quasi più e sta chiudendo, ma a fine mese chiude. Stanno assumendo da Ruspi, quindi qual è il problema? Una volta vanno bene lì, vanno da Ruspi a lavorare. Stanno assumendo, stiamo cercando personale. E poi c'è anche un'altra lista, un altro negozio che sta aprendo, c'è da mercato che sta assumendo. Prima li aveva licenziati, c'è da mercato, adesso sta cercando gente per assumere. Facci tu al settore elettronica, ti metti il camice bianco. Per esempio Cifatta, quello che era da Eurospini per Danieda, Cifatta aveva chiuso già tempo prima e i piccoli stanno chiudendo. Purtroppo i grossi stritolano i piccoli. Questo è il commercio, mamma mia. Dai, riprendete voi che mi sto abbioccando, dai, dopo cena mi sto abbioccando. Vai Gianmarino. Ok, ne approfitto, ma è ora di chiudere, per cui chiudo. Dai, ci sentiamo domani. Grazie, una piccola chiacchierata, anche se breve, da sempre piacere. Buon proseguimento, saluto la Liu. E ci sentiamo domani. Ciao Antonio, riprendi qui, io chiudo, dai, sono la Molatena. E io, ciao Giomari, ci sentiamo, stammi bene, buon quaretti, buon tutto. A domani. Ciao Gian Maria, buon proseguimento di serata, buon tutto, ci sentiamo nei prossimi, dai. Ok, chiudo. Ciao ciao. E tu motopompa, sei uscito oggi? Sì, sono uscito a fare la spesa, stasera. poi l'altro giorno ieri sono sceso da Nicco, sono sceso per controllargli un lette. Ci sono dei figli nella macchina sua e stavo controllando, ci sono tre vosso, quindi magari c'era qualche lette applicato e adesso uno di questi giorni devo stracciargliene tutto. Devo controllare dove diavolo l'hanno agganciato, perché non si sa se è agganciata la portiera, perché nella profondità di sopra non ci sono, i fili non ci sono, quindi per forza devono essere o agganciati allo sportello oppure non lo so. Ci dovrebbe essere anche qualche trasformatore di tensione senz'altro, perché da 12 a scendere a 3 c'è senz'altro per le pilotali dette. Ehi Antone, vorrei vedere se sei all'ascolto. Attenzione, l'ispettore Callaghan, se ci sei, batti un colpo importante. Vabbè, sarà andato a pranzare, a cenare, cioè. No, gli ho prestato per ascoltare un baracchinetto, per ascoltare. La voce vedrà. Omologato, è tutto, c'è, ci, scia, ciò, tutto. Io ho trovato la Fusaro, 100 euro, devo solo ritirarlo e basta. Capito? Ho già chiesto ieri a Marzia, 100 euro me lo lascia. Bello, un ecofrequenzimetro, c'ha tutti i tastini, bello, bello veramente. Per 100 euro si può anche prendere. Oh, che apparato è, te lo ricordi? La marca insomma lo ricordo, bisogna che ci vado domani e controllo la marca. Capito, gliel'ho bloccato in pratica. Devo solo aspettare adesso, domani mattina mi faccio una passeggiata alle poste, vediamo se mi hanno accreditato la roba, che sono già in ritardo di 3 mesi. Hanno bloccato tutto con questo cazzo di cose di casino che c'è al governo, capito? Se continua così manco le pensioni danno a me, perché non vedo di là. Beh, a me non la danno di sicuro, non sarà il CRT 2000, no? CRT 2000, display a colori, frequenzimetro, anche se in un apparecchio AM canalizzato non ha senso. Oh, non so quale possa essere. E domani mi faccio la fotografia dell'apparecchio, così te lo faccio vedere, te lo mando su WhatsApp. Ehi, ehi, lei ce non vedi omologati ormai. Come ha detto Gian Maria, stasera ci sono più apparati in vendita che gente che li usa. Ah. E vabbè. Pazienza. Io ce l'ho l'87 qua, funziona benissimo, l'ho riparato, c'è stato un canale, già lo conosci. Stavo addirittura per buttarcelo per l'esattezza, poi mi è venuto in mente, eppure ho detto voglio provare. Ho provato e sono riuscito a farlo funzionare. L'unico che mi crea problemi con il 4000 non capire cosa cavolo ci abbia. Tutto a un tratto, modulando se ne... come se andasse in cotto, ci sia qualche componente in cotto, è possibile avere 15 watt e invece ne ha 1 watt, capito? Invece se metto l'accordatore sale a 15, se dico l'estrazione sale a 15, quindi c'è una specie di qualche cosa di differenza che non va bene. Ho telefonato a Vittorio l'altro giorno e gli ho detto Vittorio, ho detto non riesco a capire i piedi, ho detto adesso appena ho detto Vittorio, ho detto te lo porto, ho detto così me lo sistemi. Perché gli ho detto non ne cavo più, ho detto col test non riesco a capire cosa diavolo ci abbia. Solo tu, ho detto, con gli strumenti puoi farlo, ho detto meno sistemi, ho detto che è un peccato, ho detto come apparecchio, non lo voglio buttare, ed è tanto meno al limite, che te lo voglio usare, me lo metterò in macchina, quello che è. Se si può mettere in macchina oppure lo lascio a casa, gli anni apparecchi ciò. L'87, con il 4000 che mi ha dato tu, il 3009, l'Iaeso e il Saturnecco, a parte quei 4 portatili della PMR. Ehi, ehi, bene. Vabbè, il giro già me lo son fatto. Adesso non so nemmeno se l'abbia acceso o coso per ascoltare. Almeno ascoltare può. Però era una serata un po' moscia stasera, la verità. Per poco tempo sono entrati a modulare, almeno qua, dai. Bene, Antonio, sono senza parole. Bello, mi piace, mi sa che mi piglio il caffè decaffeinato oggi anziché con la caffeina. Bello, mi stendo con la televisione e non voglio più fare niente. C'è qualcuno che vuole entrare, chi è? La pagazione, sembra che fosse qualcuno che voleva entrare. Quindi piglio il caffè e ti sdrai. Io dormito, portanto mi sono sdraiato senza addormentarmi. Mi sono voluto rilassare perché stamattina sono andato a ritirare la roba col caldo che c'era, cazzo, mi stava crepando. E quindi ho camminato piano piano. Poi ho mangiato e mi sono rilassato dopo pranzo. E adesso sono seduto qua solo. Poi domani mattina vado a prendermi il coso, questo mezzogiorno, la Valentina e basta. Ehi, sì, c'è una propagazione fastidiosa. Anche sul 4 quasi non riuscivano a modulare perché sentivo gente in FM forte, gente in banda laterale addirittura si era giunta. Caspita, non sentivo nemmeno quello di Polo Torres, come si chiama, Dinamite. Almeno credo che sia Polo Torres, non mi ricordo. Lo coprivo la propagazione, mi. Eppure arrivavo anche bene, vabbè. Propagazione certe volte dà fastidio, quando uno non ne vuole propagazione purtroppo c'è, vabbè, finché siamo a Sassari è un conto, però poi in distanza un po' si sente. Ebbè, la testa, il cadavere è riapparso lì. Chi è? Chi è? Non sento più le voci, Antonè, sento una miscela di radio AM, quelle di 9 MHz, 10 MHz, non è normale però, caspita. Pettore Calla, cazzo. Ah, tu sei? Caspita! Mi occhio naturalmente, ehi, ispettore Callaghan, ti chiamo così, dai, per non fare il nome. Yeah. Ehi, ma stavi ascoltando? Da quanto stavi ascoltando? Tutta la sera. E oggi hanno modulato poco, dai. C'era gente sul 4 stasera e quindi un po' stavo girando i canali, dai. Bene, sono contento, mi. Magari cerca di, te l'ho detto, per adesso soprassiedi, ascolta, poi. Insomma, d'altronde anche tu paghi 12 euro addirittura modulare. Se c'è gente che ha l'antenna a Fradicia, si cambia l'antenna, scusa. Un discorso che abbiamo fatto 100 volte. Riprendi Antonetto. Lui bisogna che sacca su e attacco il lavoro che ti ho detto io, l'unico modo. Tutto questo palo che va, non riserve proprio a niente in teoria. Mi ha salire su con un camioncino, fare due, quando non c'è quello, mettere due tasselli, metterci 4 metri di palo e l'antenna sopra, e lui è a posto. Anche una canna da pesca, se vuoi pensarsi una canna da pesca, tanto al marco non si vedono i radiali, non pensavano niente. Ah beh sì, anche una canna da pesca purché resista un po' alle intemperie, no? Al vento forte. Così dai, è anche più leggera. Vabbè, quell'antenna è già leggera, perché quella che io ho 2,5 kg in fare buce tutto, compresi i radiali. E ti dirò che a qualcuno è andata male, a me sembra che stia andando bene. Beh, adesso che ho parlato sicuramente tocchiamo ferro, me ne scende domani, vedrai. Certo, non rende quanto la manto, ma d'altronde io, Antonè, devi contare sempre quasi 50 metri di cavo, quindi pure perdita me la danno, quello è poco ma sicuro. Se avessi abitato all'ultimo piano, se fosse abitato, sì, se c'è Porciccio, fosse abitato all'ultimo piano, sarebbe stato tutta un'altra cupa, avrei avuto 10 metri di cavo e non avrei perso niente di segnale. E appunto per quello, capito? È così. Infatti se avete anche messo l'antenna sopra quella per l'IPMR, e sei stato anche tranquillo. Quindi l'unica cosa che può fare è quello, andare lì con un camioncino, con la gru, di zappa, dominando, quando quello non c'è, che magari adesso comincia la cavalcata e quello sparisce, quindi, tutta la mattina. Quando quello là, la cavalcata, facendo filmati, va lui lì, ci mette due tasselli, piazza il palo, ma così una pizza, che ce l'ha sopra. Non è questione di due tasselli però lì, 4 metri di palo poi devi tirantare, no, non mi fiderei tanto. Da me dal gabbiotto ne escono solo 2 di metri, vero? Pare 1,5 metri sia sotto il gabbiotto, no? Insomma ne escono solo 2 di metri dal gabbiotto seppure. Quindi sai, abbastanza bassa, ed ho voluta proprio così per non mettere tiranti, perché se li metti 6 metri di palo o peggio 8, voglia mettere tiranti, devi mettere tiranti su, non poi mi devo azzuffare col condominio, no? meglio che sia così. A meno che non si inventa, vabbè tu già sei a posto, già lo sai. Basta, non tanto inutile pensare l'antenna molto alta, non le vale la pena, cioè è andata lì, no, è logico che è successo quel casino lì, perché c'era il radiale che toccava con le antenne della televisione, e poi c'era quello là, nella mansarda c'era lo studio per fare i doppiaggi, non so che cosa diavolo faceva, quindi è logico che gli sia capitato così. Però se avesse fatto quel lavoro là, di mettere come gli avevo detto io, prendere un camioncino, pagare 100 euro per dire, per 2 ore, 2 tasselli a espansione col coso, col tassello chimico, dopo un'ora piazzate direttamente 2 spettatori di palo, 4 metri di palo, lui sarebbe stato tranquillo, non avrebbe disturbato nessuno, discorso è quello lì. Solo che lì è una zona per lui, purtroppo è una zona disgraziata, perché come però le antenne vanno a puntiglia, capito? E siccome non c'hanno i coglioni sotto quindi, purtroppo è così, la situazione è che bisogna farsi rispettare, il discorso è quello. Io ci ho vissuto e so cosa vuol dire, io mi sono fatto rispettare. A parte che mi avevano chiamato anche i vigili urbani, io ho detto, quando mi hanno chiamato i vigili urbani, questa antenna dicevano va bene con la televisione, e allora ho detto faccio una cosa, al vigile urbano, ci salga lei, mi dia 2 metri e mezzo di palo, e sollevo il palo. Così quei ragazzi che passano a portare le pizze, gli ho detto, non si sbattono le corna, gli ho detto, l'antenna. Perché se è vero, ci sono le transenne, qui non possono passare, non è che togliere le transenne per fare 4-5 metri in meno. Allora è stata zitta. Dice allora, dice, faccia per cortesia, almeno per noi, ci sollevi un pochettino il palo, ho preso, gli ho detto, se lo chiede per cortesia, ha detto, almeno non mi cambia la vita, li sollevo un pochettino, ha detto l'antenna della TV, con la spina di pesce, e i problemi sono finiti. Poi avevo comprato il palo, ci avevo messo la mantova e ci ho messo tutto lì, capito? Però perché l'antenna della TV l'avevo messa sopra il tetto, invece la mantova come si chiamava con CP del Monte, con Giulio Padre Pio, l'abbiamo sistemata nella finestra, no, non rompevo le palle a nessuno, avevo messo 3-4 radiali, era perfetta, non disturbavo a nessuno, ho chiesto, dice non mi dai fastidio, mi dicevano. Allora c'avevo il Saturn Echo, c'avevo il C80, solo quel C80 non poteva modularci perché fischiava, sembrava un treno, e avevo dato a Adriano l'ho usato quasi un anno. Dopo quando sono andato via da lì, che mi sono trasferito, sono andato a Adriano, ho detto, ho detto il cavo, ho detto che me ne sono andato a abitare, ho detto che mi è andato a basso, e infatti ho saltato le antenne. A anche se non voleva capo con un aiuto, se, anche se non vuole non vuole fare niente, gli ho detto. Questa è casa mia, abito io e faccio quello che voglio, gli ho detto. Con la tua solita finezza, no? Eia, vabbè, che comunque sempre a te ne deve battagliare col condominio, dai. Noi già lo sai, non abbiamo fatto altro che cambiare il palo e l'antenna, che in realtà c'era già dal 92. E c'era una boomerang in punta senza radiale perché ormai era volato via. E quindi hanno detto, questo palo, guarda che il palo c'era già e l'antenna pure, quindi sì, un po' più alta, ma... E vabbè. Se non già ci butto tutto, se c'ho problemi ci butto tutto, mi do ad altro, capito, mi do al sesso sfrenato, capito, volevo fare, Callaghan è cenato già, non ho sentito nulla, sento via. Eia, ricordati quel mezzo secondo di ritardo della portante. Purtroppo quella serie di apparati, anche l'altro faceva così, anche il modello minore di quello lì. Purtroppo hanno quella caratteristica che a me non piace comunque. E vabbè, caro Antonello. Adesso anche a me sono finiti i soldi, bisogna aspettare l'uno, mamma mia, credo di avere 10, 15 euro forse. E vabbè, aspettiamo. Ah, guarda che il 22 sono ottieri, forse. Devo fare la risonanza magnetica, salvo diversa segnalazione. Quindi fa la risonanza magnetica. Comunque tu tutta la documentazione te la conservi quando te la danno, quando hai finito tutti i documenti. E ti fai la domanda all'invalidità. Capito? E poi ti vai all'ufficio di collocamento, ti segni, se ti danno l'invalidità, ti segna dove sono i valori civili, tu sei più tranquillo. E poi intanto nel 2019 ormai è esteso a tutti. Ti fai quello che in pratica mi tiro io, perché dal 2019 lo estendono a tutti, non c'è più l'età dei 55 anni, ma bensì lo può prendere qualsiasi disoccupato, però sono obbligati a cercare un posto di lavoro. Poi se vuoi fare il biletto o cose del genere, a te quello che ti danno ti prendi, cioè sei a Sassa, sei a cosa, la macchina ce l'hai, grazie a Dio, quindi ti puoi spostare. Ma se non ti violenti le bambine, non fai come Pacciani. Sì, ci manca solo quello. Oh, chi era? Pacciani? No, Pacciani ammazzava le coppiette, non era quello. Pacciani sparava le coppiette, mi pare, che si appartavano per acciuffare. No, spero che non ci sia invalidità, spero che ci sia una terapia o medicina o laser che un po' mi migliori la vista. A costo anche di mettere gli occhiali, certo, io non, problemi non ne ho, però preferirei non essere invalido. Preferisco non averne soldi ma essere abile. Ti capì? Guarda che a 50 anni poi la vista si riduce un pochettino, quindi devi aspettartelo. È successo a me, a tutti succede, non solo a me. A 50 anni comincia il corpo a dare già i numeri, cominciano i dolori, capito? Non mestruali, dolori di gambe, dolori di articolazioni, cose del genere. L'unica cosa che spera di non avere dolori mai è il pisello, solo quello. L'unica cosa che devi tenerlo sempre a freno, li metti il guinzaglio, perché quell'età lì comincia ad andare per i fatti suoi, quando vede qualche ragazza è come il cane, figlia segue l'odore. No, io ormai l'ho appeso al chiodo il pisello, capito? Non mi serve più, solo per fare la pipì. E ti ha dato anche tu una ragazza, non ti preoccupare, Marco te l'aspetti, vedrai qualche giorno che te la conosci magari una per sbaglio, boh, ti dimentichi anche il bastino, te lo dico io. Ti riprendi e ti prenderai tutto, no, una volta che l'assaggi, ciao e buonanotte. Quando ti chiamerò, lasciami stare Antonio che sono impegnato, devo andare a fare una cosa, un lavoro, un impianto d'antenna. No, guarda, quello che non farò mai è mollare il baracchino per una ragazza, capito? Non mi voglio far condizionare come qualcuno che è, o me o le radio, non esiste, no, con me non esiste. Ah, e vabbè, è quello che... è meglio che sia successo così a quello, lascia perdere, perché è un rompicoglione, che altro. Quindi è meglio che ne abbia dato l'altro, capito? Poi qua non ci ha fatto niente, quello ha fatto di tutto per tenere, se la patente si è attaccata a pompa, si è attaccata a un certo punto, quindi si è comprato, per dire, 6-7 mila euro in radio, ora si è attaccato a spalle, si è attaccato, quello è il discorso, è una spesa inutile che abbiamo fatto. Vabbè, quelle sono imprevisti. Allora, questo pappagallo, ma non serve a niente, tanto per far parlare quei pellegrini che con i portatilini, no. Oh, può darsi che Pappagallo, Ministero del cosa ha detto, Ministero delle, come si dice, dello sviluppo economico ha detto che il pappagallo è legale, purché sia collegato a un apparecchio omologato. Una volta soddisfatto questo requisito, il pappagallo è legale. È una risposta che ha dato un utente che ha scritto proprio al MISE. Capito? Quindi niente bau bau, che metti l'omologato, basta che sia in altezza e ti fa tutta sassari. E quindi può invogliare la gente a usare anche i PMR omologati attraverso il pappagallo. Già lo so. Adesso vediamo un po' dove c'è in tutto il posto adatto dove installarlo, non è che posso lasciar metterci in campagna per dire così com'è adesso e poi non acciappo nel pappagallo, tanto me lo rubalo. Qui ci vuole un posto custodito di la campagna di qualcuno, gli pago quello che devo pagare per dire per il pezzettino che soffrisco io, gli metto i pannelli solari, la batteria, una batteria di macchina da 100 ampere va bene. E sta tranquillo che già dura. Poi chi vuole soffrire di quella storia lì ci metti il, basta metterci il codice, se uno non c'è il codice non c'è, il discorso è quello. Sì, ma cosa cazzo? Guarda che 100 ampere è una batteria da ruspami. No, guarda che bastano quelle batterie al piombo, ricaricabili al piombo che vende Fusaro, 30 euro, 25 euro. Potrebbe andare bene a 6 ampere, da 4 ampere, bisogna farci tutto il progettino, no? Bisogna pigliare una scatola di quelle elettriche, no? A tenuta stagna, un pannello solare, poi ci vuole un circuitino appunto che per la ricarica della batteria al piombo, che deve alimentare sia il pappagallo che anche il portatile naturalmente. Quindi se le tensioni sono diverse, una seccatura, in più una seccatura che altro. L'antenna deve essere quella originale per essere un omologato, capito? Non ne vale la pena poi, Antonè, in una città come Sassari non ne vale la pena. No? E come nei mortali, non ne sanno usare, non sanno impostare sul bottone, non sanno niente, sono capre, capito? Come dice Sgarbi, capra. E allora, capra, capretto, caprone. Uiuia. Diciamo che sarebbe andato bene a installarlo lì a Gattacero in Piazza Castello. Beh, sono lì, sarebbe stato un bijou. Ti avrebbe coperto un bel po' di cosa, perché una volta ci sono salito lì, non ti avevo dico nulla, ragazzo. Sono salito a sala e sono sceso ubriaco dalla... perché beh, tu immaginati, sei sopra e oscilli di 5 centimetri, hai capito? E sembra che sia in mezzo al mare. Certo che la vista dal grattacielo, che poi non è altissimo, ma deve essere spettacolare lì, vedi tutta Sassari. Il problema è che anche conoscendo qualcuno al grattacielo, è tutto pieno di antenne, ripetitori, non so, TV, radio, non so cosa siano. Quindi sicuramente il pappagallo riceve interferenze, riceverà parecchie interferenze, o peggio ne può creare, quindi... E dove metterlo? Ausilo nel punto più alto, perché non abbiamo conoscenze, capito? Uno ce l'ha la campagna Ausilo, so anche chi ce l'ha, capito? Devo solo chiederglielo, io sono stasera lì dallo SPI, adesso domani se ce l'ho bello glielo chiedo. Se lui è d'accordo che lo usa anche lui, a me sta benissimo, non costa niente comprare quella roba lì e installarlo, capito? C'è gente in FM, caspita. Il tono di solito usano sempre, diciamo, più usato il tono 8, che sarebbe 88,8 o 88,5 Hz, com'è? Sì, Hz pare che sia. Ma puoi mettere qualsiasi tono, quanti sono i toni CTCSS, non me lo ricordo. Poi volendo ci sono anche digitali. Solo che non tutti i PMR hanno i toni subtoni digitali. Analogici sì, comunque. Sì, metterò analogico, non è realistica. Tutto sta a trovare il terreno, dove installare il paletto, col pannello solare, eccetera, eccetera, la batteria. Poi si faranno le prove, anche perché cosa c'ha il PMR per dire uranio, eppure non sente neanche un cane. E sembra strano, perché lui è in alto lì a Ausilo, quindi dovrebbe prendere tutto, invece è totalmente una storia diversa. È tutto da provare prima di installare una cosa del genere. Bisognerebbe andare con un'auto lì, metterci un paletto agganciato, come si chiama, e fare la prova. Se uno la sassa e uno di là, se vedi che la cosa funziona, si può anche installare, se no è inutile, cosa la piace a fare. Che la pace sia con voi. Ave Cesare, buonasera. Buonasera bambini, come va? Bene. Buonasera padre Gianfranco. Sì Antone, alla fine poi ti devi costruire il cavo, perché il cavo che ti danno è Kenwood, certo noi non vogliamo mettere un portatile Kenwood, no? Cioè per i Baofeng, noi non vogliamo mettere un apparecchio non legale su un pappagallo, deve essere un apparecchietto legale, 500 mW, si deve costruire il cavo, capito? Un macello, non ne vale la pena. Vai Gianfranco. Sì, se vi può interessare, da Ausilo, esattamente da Santa Vittoria, per essere precisi, un drone di quelli un po' vecchiotti, quei drone con l'antenna, proprio antenna, col petto di ferro attaccato, senza antenne grandi, proprio la sua antenna normale, proprio l'apparato. Guarda, io ho ancora i Brondi FX10, che l'antenna, sai cos'è? È presente quelle penne che premi il tasto dietro, esce la punta o si ritrae la punta, no? Quella, proprio quella piccola spiralina di penna, ecco, come antenna ha una di quelle molle di quelle penne click-clack, non so come chiamarle. Brondi FX10, esce un po' cupo di radio, però funziona, quello sarebbe già un buon candidato, ai subtoni eccetera. Certo c'è di meglio, che esce bene, riceve bene, insomma. L'altezza fa molto Antonetto, l'altezza fa molto, anche con 500 mW, che poi sono fasulli, RP, va bene. Già lo sa. Mi mamma ha fatto danno. I poveri come te allaghi la casa. No, ho sentito le pentole rovesciarsi. Neia. Ma poi come ho detto io, quello va bene in pianura padana, dove c'hai zone pianeggianti, qua è tutto salite e discese, no? Non lo so. Finché a Osilo, ma chi conosce a Osilo? È roba, perdete il tempo per quanto mi riguarda. Infatti il calcolo che dovete fare è quello, ma a cosa serve? Sì, anche perché, come dicevo io Gianfranco, vabbè, noi passi, un subtono lo sappiamo impostare, eccetera, ma i pivellini che possono essere a Sassari col PMR vero e proprio omologato, non credo che sappiano nemmeno cosa sia un subtono, eccetera. C'è gente che compra da Lidl, accende e parla, capito? Non usiamo anche i subtoni. Infatti quando vai a parlare sul canale, caso strano, ti sentono sempre, quindi è tutta gente senza subtono. Anche quelli famosi, Antonè, che stavano misurando le strade, con quelle specie di livelle ottiche, non so come chiamarle. Questo, pronto? Eccola, chi è? Ho detto, no, scusate, ho sbagliato canale. E praticamente anziché sul 7 era sull'8, mi ha risposto, dove è in Viale Umberto? Tutti senza subtono sono, capito Gianfranco? Solo qualche mente eletta può capire a cosa serve il subtono e metterlo. Guarda, Marco, che se io appunto l'antenna a capocaccia, sento quelli che parlano dal traghetto, tranquillamente a Sassari, capito? Addirittura anche produttori se lo usano dal traghetto a terra, tutti usano il PMR, c'è anche a Lidl, visto che quella ragazza che c'ha quelle lì a Lidl, quella cuffia con il microfonino, quello è un PMR lo stesso, capito? E parlano tra loro, c'erano tutti a Sassari PMR, non vedete, tutti i negozi c'erano. No, ho sbagliato. Esatto, non è un PMR quello. E ti dico anche perché, Antonè, perché mentre facevo una spesa ho messo lo scanner in modalità close call, praticamente se sente un segnalino a pochi metri di distanza o qualche decina di metri dimostra immediatamente la frequenza, non è un PMR, non è udibile, allo scan non è udibile, non è, Gianfra niente ne sai. Sì, quelli sono degli apprecchietti a 2 giga, è una specie di Bluetooth praticamente, che lavora digitale, che lavorano su quella frequenza, sono fatti apposta per i posti dove c'è la rete, poi lì c'hanno i collegamenti di rete, oltre a sfruttarlo, che ne so, per fare gli ordini, eccetera, eccetera, come c'è poi, lo utilizzano anche per fare queste comunicazioni tra cassa e magazzinieri e così via, sono dei ricetrasmettitori netti qui, praticamente. Una specie di VoIP, dai, diciamola così, un VoIP con la radio, un po' corte. E questo fa un pacco di soldi, Ci sono anche proprio quelle in versione ricetrasmettitore, sono dei portatili normali, però sono IP, sono proprio su quella frequenza con una microantenna, ma costa un pacco di soldi, ma sono proprio a livello di 50-100 metri di portata. Sai che a me, cioè, quel vigilante che viene qui ogni giorno, avevo un assunto per un mese, no? Ma aveva detto, lui dice, ma da cosa stavo usando? Dice, stavo usando il PMR, mi ha detto. PMR, dice, e ti ha posto le cuffiette, e non poteva usare la rete, avete detto con il microfonino, e dice, per quello, vabbè che è durato un mese, curava più Edo che l'altro che c'era all'esterno, figurati tu. Ehi Antonè, pensa, quindi sono 2 giga in più digitali, quindi inascoltabili con le scanner, non senti nemmeno quel rumore, perché il mio scanner si ferma a 950 MHz mi pare. Se no troppo facile, vai lì, li fai le pennacchie, pure li fai alla signorina. No, sono criptati come tutti gli oggetti radio, diciamo tipo Bluetooth eccetera eccetera, sono proprio digitali digitali. E comunque la portata è piccolissima, giusto per va bene per fare quel lavoro. Ma poi ho capito che hai detto anche le pappagalle, un sistema così primitivo e come si chiama, proprio, cioè tu pensi a tutti questi occhi che dovrebbero durare il doppio, perché devi moltiplicare per due i tempi. Ci sono, stavo usando mio, perché quando un po' di tempo fa, parlavo sul canale 20, mi pare che era, ma c'è 1, 2, 3, 4, mi risentivo la voce io dopo un paio di secondi, e tu qualcuno ha detto, ha installato qualche pappagallo, era neanche l'Italia, era roba polacca, una cosa del genere, lì usano parecchio, Sì, ma ne conviene che per fare una chiacchierata è a dir poco stressante, non ha senso, è una cosa proprio, anche perché devi considerare che in città c'è il problema sempre che siamo sempre con gli altri, perché sento un altro e devo disturbare anche gli altri, a prescindere dal tono, quando parlano gli altri sono un po' segnale in mezzo ai piedi che si abbassa normalmente la portata. Quindi è una cosa un po' così. Poi Antonetti, dirò che con la TX2000 era bruttina anche la, cioè questo registratore digitale non è bella, non era bella da risentire la modulazione, era un po' bruttina. Può darsi pure anche che li abbiano migliorati, adesso in vendita dalla Cina c'è questo Radiotone, registra fino a due minuti, lo puoi attivare e disattivare con i toni di TMF, che già se ce li hai vuol dire che uno non sta usando un PMR446. Eccetera. Sì, la seccatura, parli, ciao, cosa sono? Quello registra, rimanda, ciao, sono tale tale, quello parla, sa bene a rogna, mi Antonello. Poi vabbè, c'erano criminali in continente che usavano i pappagalli con piccolari, antenne esterne con 20 watt, 50 watt, magari nelle PD, e quindi c'è un criminale perché li sentiranno in mezzo Italia, in minimo. Quello non lo so, io l'ho sentito in 27, la verità si dica, mi è capitato in 27 a me, mi sentivi, usano spesso in Polonia, una cosa del genere, forse usano per i tassi, non lo so. Comunque stavo usando molto il pappagallo perché sono andato a parlare, facevo 1, 2, 3, 4, dopo 30 secondi mi sentivo la voce io indietro, figurati tu. Ma oggi per dire, stavo ascoltando e c'era uno che parlava, parlava in 27 e l'altro in pratica parlava in V, si sentiva questo fruscio, io tipo, tali cose. Vai Gianfra, vai. No, quello potrebbe essere un FM, invece, potrebbe ancora essere un FM, ma adesso con i sistemi digitali questo problema dei pappagalli non esiste, certo la tecnologia è costosa, perché c'è solo di sera, io ne ho due ripetitori, uno VHF e uno VHF, che sono in realtà dei portatili, che praticamente tu quando parli istantaneamente la tua emissione viene mandata sullo stesso canale. Lo so, è una cosa un po' difficile da capire, però è una questione di sincronismo, sono apparati molto sofisticati, anche estremamente costosi, fanno da fonte alle altre radio, quindi se lo porti a Osilo di colpo c'è la possibilità di usare il portatile di Osilo come un ripetitore, però sullo stesso canale, quindi senza occupazione di doppia frequenza, senza cavità, senza niente, però sono digitali. Ehi Antoni, tu per gustarti quelle le cornie, dove fai diventare radioamatore? Allora sì, comunque vi posso dire che, come si chiama quello, mannaggia la miseria, quel negozio di scarpe da Auchan entrando dal, dall'ingresso principale, Foot Looker, Foot, Foot qualcosa, ce l'avete presente? Allora lì devono avere un magazzino, non so dove, e la signorina alla cintura aveva un bellissimo Polmar Work 3, quello che c'è una bella batteria litio da 2003 o 2006 mAh, mi pare 2003, c'è una bella batteria di rombè, a quella glielo puoi fare, mi fai, oh, puro scappellato. E se per questo se vai a... Taliti, secondo te, se ti metti lì, c'è quel negozio che vende TV, eccetera, eccetera, lì, all'entrata proprio, gli fai una bella pernaccia, lo sai come, come si sente in diretta? E un giorno sono salito, ci sono entrato con il corvo, lì sono entrato, e c'avevo il PMR in tasca, c'avevo io, però non avevo fatto nessuna pernaccia, che avevo detto, guai, se lo immagina anche sono io. All'ingresso proprio c'era il PMR e si chiamava uno con l'altro, ogni 2-3 minuti mi pare che era sul canale 8 era. E quando sono poi andato via, giubilando, tu devi sentire, cazzo mi sentiva, tutti zitti sono rimasti. Delinquente. Poi sai dove gliel'ho vista la cintura? I portatili, sembravano dei brondi, da macro, non toys, macro, gliel'ho visti, si parlano dal magazzino ai, insomma, ai commessi che sono lì per comodità, capito? Poi tempo addietro, prima che da Auchan venisse questa vigilanza Tiger, che ha dei bellissimi Motorola, non so se mi spiego. Un tempo, non so se fosse executive o chi era, per fare questo piccolo servizio di portierato avevano i PMR della Kenwood, belli quelli, PMR del Kenwood, ovviamente in chiaro, senza subtone, ho fatto il cicalino, gli ha suonato il coso subito, chi è che parla? Capito? Però adesso sono tutti con Motorola, sono più sicuri e tutto, non so se siano in chiaro nemmeno, non ne ho idea e non lo voglio sapere nemmeno perché sono geloso poi. Gianfrani, prendete voi due che vado a fare il caffè in fretta. Sì, sì, Motorola sono più affidabili come... Sì, anche quei Kenwood, non mi ricordo il nome, CMR, sono molto professionali. Solo che PMR sono solo canali, in più vabbè ci sono fortunatamente gli altri 16 che però nessuno usa, che sono riservati a digitale. E così, andando a Cagliari, quando arrivi all'altro stato di Strano, lì già di Strano e Cagliari, ne senti parecchi che chiamano. Ma di lì scoppia nulla, quindi la distanza ovviamente che coprono è abbastanza grossa. Gli altri che ce l'hanno, poi qua sono quei cinesi che sono vicino a Coso, lì a Daoshan, super abusivi perché utilizzano quelli cinesi che non sono omologati, magari anche se li mettono con un quarto, sono già fuori legge, comunque sono illegali perché non sono omologati. E insomma non si capisce un po' perché parlano in cinese, non so se li hanno sentiti. No, non li ho sentiti quelli, no, sento tutti quelli di Pedanieta da qua, con quell'antenna che ho gli anno 6 messa in verticale. Guardate che la giro e si sento tutto, sento. Io sul nostro è piena, addirittura io prima la prima volta che ho usato il PMR in pratica mi ha chiamato Fabrizio Filigato, mi ha chiamato, lui era lì a cosa prima santo e mi ha detto c'è come fai a arrivare qua a Fondo Scala, io, tu secondo te Ha detto, rispondi a me, gli ha detto. Come fai a arrivare tu a me, tu invece, detto, con l'antenna in gomma? Ha detto, stato zitto, gli ha detto, allora ha detto, guarda, siccome detto, ci disturbiamo vicenda, ti faccio la cortesia, ha detto, guarda, detto, mi sposto su. Allora ero sul 2, in quel periodo lì, con Marco di Olmedo. Ho preso e mi sono spostato sul 7. Se no l'ammazzavo, capito? Non sentiva più nessuno Fabrizio, ogni volta che si mettevamo a lavorare da lì. E io usavo l'antenna della macchina, mi la diamo, non ti è stata nel paletto qua a casa, vi guardi tu. Beh, se in linea ottica quasi mai ci sono problemi. Quasi mai ci sono problemi. Ma comunque l'idea del pappagallo è proprio vecchia, ancora vecchia, che non ha senso, perché può servire solo a chi fa comunicazioni proprio stringate, la serie guarda che sono arrivato di lì, guarda che sono arrivato di là, e basta, ma fare un discorso e poi tagliare senza se lo ripetere e poi lo fa l'altro e sono sempre, cioè un macello nero, guarda, no, è una cosa proprio così, è giusto per dare un messaggino, ma basta. Sì, già ho capito, già ho capito. Sì, più che altro è stata alla usina, magari si copriva la zona, perché la maggior parte ho visto che stanno usando Zello, è fatto dalla Sardegna, solo che non l'ho installato io perché è un casino, capito? Non devo stare a pensare a loro. Però c'è gente che in pratica parla la Valeria tranquillamente con la Sardegna, è come, se, come avere un po' di ripetitore tra le uguali, utilizzi il telefono e fa vedere con chi ti pare che piace, il DMR, tutto lì. Scusate, sono qua, sto scaldando la macchinetta. Sì, Antonio, c'era una specie di pappagallo interconnesso in un certo canale Zelle, solo che io ho il radio, cioè devo avere in mano una radio, non un computer, no, sono della vecchia guardia, non voglio computer interconnessi tra radio eccetera, deve essere radio pura. C'è gente comunque che parla con tutta la Sardegna, figurati. Che cosa? Marco parlava tranquillamente con Valeria, io Valeria non lo sento, ti giuro, lui parlava a Olmedo tranquillamente con Valeria in diretta. Sono dei punti che con PMR arrivi sparato, arrivi per dire. Io di qui sono coperto, se fosse stato, guarda, abitando dove abitavo una volta, sono sicuro che con PMR da lì sei arrivato tranquillamente, non dico molto, ma almeno avrei coperto la fino a cosa ti posso dire, piazzando lì un ripetitore lì a Montesanto, avessi fatto mezza Sardegna, avessi fatto, tranquillo, capito? O a tempio, anche un ripetitore a tempio, per dire, perché da lì tranquillamente con un trasmettitore, già te lo ricordi, in FM, da 15 watt mi aveva fatto Carlo circa di Chiaromonti, arrivavo tranquillamente col trasmettitore FM, lì a tempio, segnale buono, coprivo tutta la... fino a tempio. Quindi la zona quella era molto ma molto bella, qua sono tappato, sono in alto ma sono tappato, ci ho solo aperto la zona da questa parte, poi se mi hanno costruito questi palazzoni a fianco a me, quindi la zona di sorso per dire, trattiamo le cose del genere, boh, chiuso. Per arrivare dove volevo una volta bisogna andare lì al quadrato a abitare per forza. Io quando ero giovane dall'Imbara ho utilizzato quel mattone portatile bellissimo, che non mi ricordo adesso di chi era, quello con i tre canali, quello alluminio, il 27 con quell'antennone lungo lungo, telescopico, non mi viene il nome, te lo ricordi Antonio? Sì, c'è il Tokai che ho portato lì, c'era sei canali, c'era il 23. Pensavano che cosa male, pensavano, con l'antenna a stilo lunga, e tu immagini che io da campagna, in Viale Polo Torre, si parlava tranquillamente con quella... con Luisa, che abitava a Magistero, figurati tu. Erano dei treni quei portabili, veramente dei treni. Ma il mio era 23 canali. Ed ero sull'imbara, da un'imbara arrivo a Passassari, è abbastanza bene. Però l'imbara dove ci sono i ripetitori, mi rimonto molto in alto, insomma, andava bene. E non era neanche FM, perché l'FM ce l'avevano tutti all'epoca. Erano, però era, c'era la marca. C'era il CTE, allora già in Midland, quello era, adesso sappiamo noi, c'aveva le due manopole sul frontale, no? Una dei canali grande e l'altra era questa, e del volume, anzi erano tre, e c'era proprio davanti, non erano in alto. È una cosa, ma sto parlando di decine di anni fa. Guarda, che modulava tranquillamente con contatti e da lì, dalla casa, già lo sai anche tu, l'unico era Paolino Gerargento, tranquillamente da lì, perché lui c'è la casa lì, la casa per farsi le vacanze, saliva lì e parlava tranquillamente da lì. Sì, ma lì c'è anche la stazione amatoriale adesso, non sentono più, forse magari qualche cosa faranno in HS, ma sono anche molto anziano anche. Quindi piano piano sta, diciamocela tutta, piano piano sta sparendo, dai, basta vedere i ripetitori, il 90% sono tutti muti per settimane intere. Anche passata di male lui comunque. Vabbè, c'è anche una figlia grande. Lo vedo spesso al piccolo bar. Lo vedo, però a quanto so io adesso abita, mi sembra, se non mi ricordo bene, abita a Francuno, dove c'è il vino. Non viene a mettere il nome adesso. Ma prima di dimore si abita. Neanche in Siria, come ha fatto Bonanno, abita lì, però è tutti i giorni a Sassari, lo vedo spesso a piccolo bar lì, a lui. Poi una volta che è finito il coso, perché sembra la moglie sta lavorando, poi prendono il coso e vanno direttamente di lì, a casa loro. Così, ma comunque stavo leggendo questa questione, stavamo parlando del CIE, no? Del famoso CIE, e comunque l'onere non dovrebbe essere dell'utente, quindi dell'utilizzatore, del compratore, ma bensì dell'importatore. Quindi quello che hanno fatto quei signori là c'è odore molto di se per quel motivo è tra virgolette, e forse per quel motivo c'è anche delle cose di abuso praticamente, perché non si può sequestrare una cosa che comunque è autorizzata, quindi dire che da oggi quella non è più autorizzata, ma devi dire tu. Capito? Quindi questa cosa mi ha messo un pochettino così in dubbio. Non vorrei che all'italiana qualcuno avesse un amico lì e gli abbia detto la scopa da quello che sta rompendo, fagliela vedere. Perché lì veramente non si gioca in quel posto. Ma io cosa ti ho detto l'altra volta? Io le cose le so. Sì, perché ci sono passato io 80 anni fa. Non solo io, c'è passato Mario Manzi, l'unico che ci ha rimesso la verità è stato Angelo Di Rufino, perché c'aveva uno che è di fronte, diceva le conoscenze, sono andati lì e gli hanno messo 1,5 milioni di multa, figurati tu, e se l'ha pagato Mario, cosa Angelo. Però questa storia che l'ha fatto a quello là, ci sono i decreti ministeriali, parlavo chiaro, basta entrare nel sito della FISER e c'è dici, voglio prenderti se è questo, perché tu a me con l'apparecchio io non me lo tocchi, fai tutto perché è omologato. Prima cosa, perché io quando ho fatto la concessione io l'anno scorso l'ho fatta con 34 canali, col tornado 34 canali, 34S, e c'è scritto omologazione PT e gli ho scritto eccetera eccetera. Cioè se io ti mando la domanda di concessione con tutti quei parametri che ci sono scritti dietro, mi avessi dovuto al limite scrivere una lettera e dire guardi che signor così così, questa ormai questi apparecchi qui non valgono più, per dire, da quest'anno si deve comprare un apparecchio marcato c'è. Hai capito? E invece non mi hanno scritto niente, quindi vuol dire che è valido, non è che non sia valido, perché a un certo punto, cioè se io ho pagato per 2 anni la concessione, allora merito dei soldi indietro, sarebbe una buffa, hai capito? Poi comunque quello lo vedrà lui, io secondo me avrei rinunciato per la protezione in debita, il discorso è questo, e mi avrebbero trovato l'apparecchio indietro, anche il Rosmet non so l'altro, che non c'entra, il Rosmet non c'entra proprio niente, tutto. Poi vedrà loro, cioè lo vedrà lui, io non so le leggi come sono perché io ci sono passato, grazie a Dio, so come comportarmi. Per me, se me ne venga una a casa e c'ho l'apparecchio omologato, me lo porta via perché non è mancato, c'è, non esiste. Tu l'apparecchio lo lascia lì dove, non ti sa niente. Se no c'è anche lo scamottaggio al limite, se dovessero venire a casa tua come norma e tu denunci che c'hai apparecchi la collezione in questura, non te lo possono toccare. Basta che sia attaccato di alimentatore e il cavo dell'antenna e non ti possono toccare nulla. Sì, ma lasciando perdere questo escamottaggio all'italiana, le cose da vedere in questa faccenda sono un paio abbastanza semplici. La prima è quella se questo apparato era realmente omologato, questo è il cardine, perché se era omologato ne conviene che è un ente certificatore che dà un'omologazione, quindi automaticamente se tu stato mi dici ok guarda questo apparato lo puoi usare, se non lo puoi anche mettere, cioè lo puoi, lo devi rimettere sulla autorizzazione generale. E detto ciò è come per la macchina, cioè le macchine sono controllate da una motorizzazione civile, i requisiti, però ci sono in giro, ci sono macchine di 10, di 15 anni fa, di 20 anni fa, non è che solo perché tu mi fai una legge nuova che tra l'altro racchiude gli stessi parametri, che è una legge di uniformità e non è una legge che prevede qualche cosa di particolarmente nuovo, c'era anche già prima. Di punto in bianco ti viene in testa di, cioè praticamente in parole povere, se vengono a casa tua e vedono il televisore che non è marchiato c'è, te lo portano via, cioè marchiato c'è perché il marchio c'è c'è sempre a prescindere, su tutti i prodotti importati in Europa autorizzati, e quelle autorizzate sono il ministero ne conviene, avrebbe autorizzati e ti portano via il televisore, dici ma scusate io l'ho comprato a un negoziante e si presume che se io compro una cosa di libera vendita sia autorizzata, perché la legge parla più che altro di fabbricanti e importatori che si devono curare che le certificazioni siano a regola. Tanto è vero che quando la finanza sequestra tanti prodotti dai cinesi eccetera, perché hanno quel marchio CIE che vuol dire China Export, che è un'altra cosa, che è uno scontato. Mentre invece quelli che hanno il vero marchio CE con tanto di specifica 06, 88, quello che è, quelli non li possono toccare perché sono tutti dei prodotti per il commercio. Quindi la cosa è abbastanza dubbia. Guarda, ci sarebbe da ridere, io penso così, se tu per dire vai lì dal negozio cinese e gli mettono il marchio CE al buffet, sarebbe da ridere, perché sarebbe da ridere, ma non CE perché è prodotto in Cina, o CE proprio col numero delle serie che in pratica per dire che l'Italia pensa che sia un'omologazione, sarebbe da vedere una cosa del genere, perché allora tutti si comprano il buffet e ci buttano dietro per dire i cable e cose del genere, quegli apparecchi che sono molto più costosi. A un certo punto tu lo sai, vedi che queste cose qui, i cinesi fanno addirittura anche i soldi facili, fanno anche bene. Tu immaginati se dovessero succede una cosa del genere che gli mettono queste basta questo qui con quel nome e la palicchia lo possono tranquillamente vedere per dire. Rieccomi. Rieccolo, ho preso il caffè. Capito? Quindi la cosa è strana, poi ovviamente come in tutte le cose bisogna entrare nello specifico e vedere quello che è stato scritto di lì su questo, questo indubbiamente, anzi indubbiamente, certamente hanno fatto anche in natura la sanzione che è abbastanza bassa, io conosco multe da 1000, 1500, 5000 euro, ma non multe da 60 euro, di cui bisogna un po' pensare la motivazione, perché è abbastanza bassa come sanzione, se ci fosse qualcosa di realmente illegale. Quindi bisogna vedere la motivazione, vedere cosa c'è scritto sopra il verbale, se questo per questo o questo per l'altro. Ma che modello era, ve lo ricordate? Che cosa? L'apparecchio in oggetto di sequestro, di Paolo Nicolà. Maxon, un Maxon con la vecchia omologazione, di 20 anni fa, no? A questo proposito, Antonelli, ti ricordi che ti avevo detto che c'era un file, un sito che dava tutti gli apparecchi omologati? Beh, se tu vai al sito del MISE, dove proprio cerchi per marca o per modello gli omologati, tutti gli omologati moderni partono dal 2000 e sono tutti a marchio CE, cioè c'è proprio CE, sai come te già abbiamo detto, 0341, 0678, eccetera, eccetera. Quindi si presume che vecchi, se no, non credo che sia un abuso certo, se no sequestrato forse non è a norma europea e basta. L'omologazione era dell'89 esattamente, mi pare di aver letto sulla foto 89. Ma se uno ha la concessione a parecchio tempo con quell'apparecchio lì, perché dovrebbero toccare lo discorso di quello lì, capito? Quello voglio dirti, Marco. Io un Maxon ce l'ho qua. Se avesse saputo l'aveva dato come si chiama, c'era l'adesivo, l'aveva messo l'adesivo dietro, il frontalino quello che ho io, che è un Maxon digitale, addirittura c'ha un tubo, c'ha l'accensione, c'è il pulsantino AM/FM, poi il canale 19, lo squelce e due pulsantini del canale, basta, c'è altro, è un apparecchio piccolino nero. E c'è questo marchio c'è dietro, che pace che c'è scritto CE0678, e poi c'è scritto in un quadratino E1103 4484, e poi c'è il disegno del cassone della modella, che non ce lo puoi buttare in quel cassone piccolo. E sotto in bella vista c'è scritto, sempre la presa per il culo, Made in Taiwan. No, Made in Thailandia. Figurati tu, sono fatti in Thailandia. È una Goldatex. Ah, Goldatex era. Sì, comunque, questo discorso del cinese e del thailandese non ha significato, perché tutti gli apparati, anche Motorola, anche quelli professionali sono fabbricati, la Motorola li fa in Malaysia, se non ricordo male. L'Itera li fa in Cina proprio, e poi li importa in Europa tramite l'Itera Europa che in Germania. E comunque hanno più di certificazioni, c'è Rose e chi ne ha più ne messa. Quindi non c'ha significato dire è fatto in Cina, è fatto in Thailandia o è fatto a Bangkok o chissà dove. Capito? Tutti quelli importati devono rispondere alle visite, cioè, e se questi li soddisfano il ministero poi ci apporta l'omologazione, tutto lì. Questo evidentemente era molto vecchio, quindi era... bisogna vedere cosa c'è scritto, se no non si può dire niente a proposito. Comunque, se fosse in lui che stava nascosto, dato che c'era quell'apparecchietto che stava guardando foto, ma c'entra la memoria. Vabbè, Gio Maria, ieri. Prendo che quelli costa pochissimo, 60 euro, e poi me l'avrei per soddisfazione, mica per necessità, ci sarei stato mattina e sera trasmettendo, finché ritornava, o non ritornavano, buongiorno, ti prego, però, ho fatto come volevate voi, ho comprato l'apparecchio nuovo del pacca, omologato, l'ho comunicato anche subito a Cagliari, ecco qua, e poi mi sarei tolto qualche bella soddisfazione. Già fatto, Callaghan parla. In quanto legge, peccato che non ci conosciamo di persona, però ti avrei fatto leggere i verbali e tutto, e ti avrei spiegato tutta la situazione. Ma se è per una questione di marchio CE o per una questione di omologazione, e questo è il punto, c'è l'apparecchio dietro con la targhetta omologata, il senso dell'articolo, eccetera, codice, ce l'ha. Aveva. Non aveva, il marchio c'è, me l'hanno sequestrato per questo, e più, risolvendo lo stesso, anzi, mi stavano portando pure via l'alimentatore, solo che quello c'è, il marchio c'è e non l'hanno toccato. Ah, comunque era Roma molto fischiata. Comunque, lasciando perdere quello, adesso, evidentemente per non averla è sicuramente vecchissima con le cose, o importate in maniera strana, pure in norma, quindi sono di importazione, quella che chiamano neanche importazione parallela, ma importazione legale, può darsi che sia caduto in qualche apparecchio, è stato importato magari da fuori senza avere quel marchio che devono avere, cioè un progetto mercato parallelo e legale, tutto lì. Però non è successo niente, vabbè, tu adesso c'hai il tuo apparecchio omologato, puoi trasmettere come ti pare e piace, nella speranza che ritornino, io direi, perché così devo far vedere, dicami, io trasmetto, poi chi ha la televisione ha detto sbatta, andate da loro adesso. A me me l'hanno detto che io posso modulare se ho l'apparecchio marchiato CE, e io ce l'ho l'apparecchio. Perfetto, allora mattina e sera fate sentire, voglio vedere se quelli lo chiamano un tempo a farti mettere un'antenna. Certo, l'antenna me l'avrei alzata di un pochino, perché se no sembra quasi farla portata così bassa a livello delle altre antenne, capito? È troppo bassa, è Gianfra, veramente troppo, cioè pari alle antenne TV, giusto? Sì, però qua viene male alzarla, perché non puoi stare sul tetto. Adesso ti bussano la porta, non vedo la televisione. Oi, oi. Sì, praticamente sto Goldadex era omologato normal.8 bla bla bla DCSR del 89. Ah, beh, la vecchia omologazione è tutto lì. A quanto vedo dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico, no, non vi posso dare il collegamento via internet, via radio, perché non viene bene. Tutti gli apparecchi con questa famosa CE 0341-0678, adesso 0700, con questa omologazione europea, credo, non so come chiamarla, sono tutti dal 2000 in poi. Dal 2000 a oggi siamo tutti quella cosa lì. Pare che la vecchia omologazione non valga più. Ma mi è piaciuta la frase che volevano sequestrargli il Rosmetro Wattmetro HF, no? E lui appunto era vestito a Dario, dice allora ci dia quello VEU, dice qualcosa le dobbiamo sequestrare, uno glielo dobbiamo sequestrare, così hanno detto Natale. A sto fatto gli affari, vabbè, già lo sappiamo, no? Ma come erano almeno gentili, tranquilli, infatti erano 2, 3, 5, 10. 4. Ma erano io ho suonato normale, sono venuto. Non lo so, perché prima è salita la polizia e poi sono saliti loro. Ah, quindi c'è la postale anche. E quindi, vabbè, non è sposto, cioè parliamoci chiaro, se no norma vanno loro soli, eccetera. Qualcuno gli avrà detto, mica quello picchia, al solito è prima voi. Anzi, quello spara. Comunque sia, io avrei fatto un foglio di sequestro di quello che mi avevano sequestrato da voi. Cioè, Antonè? C'è il foglio di sequestro, vai dall'avvocato con questo foglio di sequestro, lo porti al giudice, in pratica ti restituisce ciò che ti hanno sequestrato, te lo tieni a casa e sei tranquillo, è roba tua, magari non lo usi, però perché devi lasciarlo a loro, hai capito? Hey. Diciamo che vabbè, quel baracchino quanto vuoi che valga. Comunque in effetti, se non sbaglio Gianfranco, il sequestro non è la confisca. L'oggetto sequestrato può essere dissequestrato, invece l'oggetto confiscato non viene mai più restituito, giusto? Sì, giusto, però se il valore, cioè guarda, se c'è un apparecchio nuovo a 60 euro, anche a 100 euro, non vai lì a fare carta da bollo, marca da bollo, che cosa? Più la marca da bollo che un apparecchio nuovo, anche fantastico. Dille buono parcheggio, vabbè, adesso è tutto a posto, conforme, secondo la direttiva europea, se ne prendi uno uscito fabbricato nel 2017, nel 2016, e dopodiché sono cavoli degli altri, capito? Comunque di lì per salire sul tetto, proprio volendo strafare, forse ci vorrebbe una di quelle scale aeree, quelle a noleggio, quelle con cestello, che uno sale, mette un palo, lo fissa veramente con tutti i crismi, fatto bene che duri 100 anni, e dopo il discorso si chiude proprio. Lì ci vuole solo l'autoscala, non c'è nemmeno l'accesso, ci vuole l'autoscala lì, poche parole mie. Un macello è. Ma a me qui l'alimentatore, ma non ho capito perché se un alimentatore di 20 anni fa non c'è meno sequestro. Ma mi sa, no, niente, riprendete. Sì, riaia. Lo sto dicendo, ma come sono sequestrato la roba ai cinesi, lo sto dicendo. No, sono andati per far vedere me, siamo andati da quel signore, abbiamo sequestrato questo, abbiamo messo la multa, contenti siete. Adesso lasciatelo in pace, avevano detto, perché non c'è più niente. Anzi, adesso c'è un apparecchio veramente omologato, a meno che non cerchino capilli. Controllate, sarebbe da controllare le antenne che pigliano colpi, magari trovano un miscelatore tipo acquario, no? Con i pesciolini dentro l'acqua. Lui, che hanno controllato anche il mio televisore, sono saliti con l'analizzatore di spettro e hanno alzato l'antenna e poi hanno schiacciato la portante in tante frequenze, sono andati a vedere se disturbava. E quindi ti hanno messo sul verbale che la stazione non disturba, quindi siamo a posto. Ma ne vuoi giù, la multa, il sequestro, hanno messo, cosa hanno sequestrato, bisogna che lo vedi per sapere il tutto. Uno l'hanno fatto loro e uno quelli vestiti di blu. Ah, strano. No, io pensavo lo facessero solo loro. Quando avevo venuto da me il verbale, ma non di sequestro, di ispezione, l'avevano fatto solo loro, erano due, erano di passaggio, tra l'altro non erano neanche venuti ad occhio, stavano cercando un'altra persona. Quindi è strano. Ripeto, per queste cose oramai, dato i tempi, dato che non c'è più un cane, è difficile che si muovano senza proprio delle cose specifiche, è addirittura una pucciatura. Quindi ce li hanno proprio mandati a forza, oserei dire. No, sono venuti proprio a forza per controllare a me, erano anche incavolati, che loro hanno altre cose da fare che controllare queste cavolate qua. Beh, c'hanno ragione, sono quattro gatti e poi ce li mandano a fare una consiglia magari di qualcuno, per esempio qualcuno di in zona a conoscere qualche altro, e ha detto, guarda, fai la cortesia, vai da quello lì che sta rompendo per scatto, mentre invece poi è lui che non si voleva. Ma comunque erano gentili, non ti hanno rotto le palle, diciamo, non erano prepotenti o erano prepotenti? No, gentili. Anche io ero gentile, non gli ho rotto le scatole. No, allora così va bene, dai. Poi l'apparato, qua adesso l'apparato lo fa subito mettere in autorizzazione generale e così sei fuori da ogni discussione. Poi possono venire a dire quello che vogliono e se devono cambiare i televisori. Perché allora se fanno da loro veramente la sequestrano i televisori anche. Ah, ma vuoi loro, so. Io so solo che sono in regola adesso. L'ho onorato e sono tranquillo. L'alimentatore c'è il marchio C e anche lui, quindi sono tranquillo. Perché se si ricchiudo allora sale di molto la sanzione, capito? Caspita, eh? Quindi questo fantomo, questo bollino passa, è universale, c'è dappertutto ormai questo bollino adesivo, chi è? Che Antonè, come ha detto, cosa non è China Express, perché il vero bollino CE ha la C leggermente distanziata dalla E, mentre il China Express ha la C praticamente attaccata alla E, come dire, se lo devo far vedere la differenza. E come vuol dire China Export, capito? Sono gli intralazzi che fanno i cinesi per esportare le loro porcherie. Ti sto dicendo che i cinesi fanno i soldi talmente fatti bene che manco li riconoscono, manco la Banca d'Italia se ne accorge. Lo sto dicendo che sono talmente bravi che sai quanti ce ne sono in giro, amici? 50 euro, 100 euro, tutti falsi, made in Cina. A tasso che mi sto dicendo, si hanno inculato un tipo, si hanno inculato 4 mesi fa, uno che c'è lì in corso Vittorio Emanuele che c'è il tabacchino. Sempre che ce ne sono accorti, perché lui ha fatto il versamento in banca, quando gli hanno controllato i soldi, si sono accorti che c'era questi 50 euro, dice guarda, dice sono fatti talmente bene, dice, che a momenti neanche noi ce ne accorgiamo, e gli erano tagliati a metà con la forbice, e gli hanno detto, ci si ricorda, dice chi è che gli ha dato, e lui gli ha detto, con tutti quelli che passano qua, che mi vengono a comprare sigarette e cose del genere, secondo lei, mi ricordo chi me li ha portati. E quindi è rimasto fregato, ci ha rimesso 50 euro, ci ha rimesso. Scusate, io scappo via, non me la so fare. Ci sentiamo, buona serata a tutti. Fatemi bene, ci rivediamo, scappo via di porta. Ciao a tutti. Ciao, ci sentiamo alle prossime. Ciao Gianfranco, buona serata, buon tutto, buonanotte. Ciao Gianfranco, alle prossime. Affinché un privato, Antonè, magari vendi una cosa o te le danno di resto, allora puoi riuscire a capire chi te la date, ma quando in un negozio che la gente dà soldi in continuazione è difficile. Una volta in quel market che c'era in Viale Porto Torres, come si chiamava? Aspetta, che poi ha chiuso. È Melunga. Mi pare Melunga, è venuta questa signora a pagare con 50 euro, ma si vedeva che erano falsi, ma non solo falsi, fatti con la stampante, eppure stampante difettosa. Si vedeva proprio, questa signora, non vede che questi sono più che falsi, sono proprio giocattolo. E quello, oh, non me ne dà colpa. Capito? Proprio falsi, fatti male poi. Se giri, si gira, se rifai con la stampante, a quello li vendono meglio. Capito? E li erano, cioè, non strappati, non so se li erano ridati, non so. O magari ha preso la sola lei e li voleva rifiare a qualcun altro. E mia mamma gli era successo alle spalle, che c'era qua sotto i ricordi, che si arrivava alle spalle della stessa, invece per mamma. Gli hanno dato 10 euro che avevano rifilato, mamma li ha regalati a me, te Antonio, 10 euro, dice comprati quello che vuoi, c'è di già centro storico, vado alla lucciola, prendo la birra, non avevo altri soldi in tasca, e fa questa la lucciola, dice adesso mi hai rotto i coglioni a me, e, ma come ce l'hai? Dice sì, ma quando mai dice di venire qui a portarmi i soldi fa, sì, perché cazzo mi ha preso per un coglione, mi ha detto, oh, tu date una calmata, cosa c'è? Qual è il problema? Dice questi 10 euro sono falsi. No, oh, e beh, c'è bisogno di darti un altro consiglio, detto. Questo gli ho detto, andiamo a mia madre alle spalle, gli ho detto. Adesso detto, ci penso io, tu non ti preoccupare, quando ti devo là, gli ho detto. 5 euro, 3, 5 euro. Non mi l'ho preso le balle, detto. Ho preso 10 euro, sono salito alle spalle. Ho preso di loro portati, detto, o mi date i 10 euro, ho detto. Nuovi, come si deve, solo detto che sto chiamando i carabinieri, perché mia madre gli ha detto, come resta mia madre, gli ho detto qua. Allora ha preso, dice, si preoccupi, questi sono 10 euro nuovi e noi ci pigliamo quelli falsi. Non c'è problema, hai capito? Sì, può capitare, a me non è mai capitato, solo che, allora mamma sai che ritira dal Monte dei Paschi, no? E poi mi doveva dei soldi, oppure ho fatto la spesa tramite i suoi soldi, non mi ricordo, mi aveva mandato a comprare roba, da Eurospin di dove, non me lo ricordo. Forse era l'Eurospin di Viale Polo Torres, almeno così credo di ricordare. Io questi 50 euro non passavano la... Sai che loro c'hanno quelle lampade, quei sistemi che riconosco, non passavano. Non passavano, eppure le ho controllate anche con la lampada di Wood, lì c'erano tutte le pagliuzze fluorescenti, tutto quello che ci doveva essere c'era. Eppure non gli passavano al loro riconoscimento, anzi non so che sistema usino, se ultravioletti, non lo so. Quella lampada mia come funziona? Aspetta, sì, la lampada di Wood, non mi ricordo se siano, sì, ultravioletti sono, mi pare. Niente, non li passavano, non me li hanno accettati. Pazienza, ho dovuto lasciare la spesa lì. Li ho controllati, li ho ricontrollati, ma poi in altri negozi non c'era nessun problema, erano veri. Forse c'avevano un lettore sporco, non lo so. E non me li hanno accettati lì. E da dove spi è successo qua? L'altro giorno c'eravamo la signora 50 euro, nuovi dalla banca. Beh, non gliela detti, no? È dovuto andare nell'altra cassa e passare nell'altra cassa. E non riusciva a pagare niente, manco fatto ci aveva, diceva solamente questi 50 euro di contanti e basta. Aspetta due minuti, parla con Foso che mi preparo a cena. Sì, Antone, io non tarderò a chiudere, c'è anche un film, ma lo vorrei guardare. C'è ancora Callaghan, ti chiamo però, ma ti posso chiamare col nome, sì, ormai tu sei a norma. Sì, già ci sono, solo che sto chiudendo anche io perché devo guardare la televisione. Sì, anch'io, c'è due film in programma, primo e secondo spettacolo. Antone, se ci sei ancora, dai, salutiamoci qua perché siamo davvero, si fa tardi e... Ciao Natale, buonanotte. Ciao Antonello, buonanotte. Se ci sei, se no non riprendo più, eh. Sì, a domani, dai, ci sentiamo domani. Saluto a tutti e due, state bene. Buonanotte. Avete parlato in due? Aspetta Antonello, chi ha parlato? Io che sto chiudendo, ho salutato a tutti, dai. Ci sentiamo alle prossime. E ciao Natale, buonanotte. Alle prossime. Ciao Antonè, dai, buon tutto, dai, adesso è ora di film. Già ci sentiamo un'altra volta, ok? Ciao ciao. Sì, ciao ciao, alle prossime, ciao.